Ciao a tutte, ciao a tutti, possiamo cominciare? Allora, grazie di essere venute, di essere venuti. Abbiamo qui con noi Nicoletta Poidimani, perché questa è la seconda parte del ciclo sulla deumanizzazione che come coordinamenta abbiamo cominciato sabato scorso. E la seconda parte è incentrata sulla deumanizzazione, noi l'abbiamo chiamata così, sul fronte esterno, anche se in effetti come definizione è un po' impropria, perché la deumanizzazione è quel meccanismo che il potere mette in atto per poter togliere a chi vuole demonizzare anche l'appartenenza al genere umano, in modo da poter compiere sui soggetti demonizzati qualsiasi tipo di nefandezza. E poi di farli passare nell'opinione pubblica come giusti, necessari, e scaricare le coscienze in modo che questo non sia recepito come un atto della portata che in effetti ha. Il meccanismo della deumanizzazione è il meccanismo principe che accompagna la colonizzazione dei popoli non occidentali, chiamiamoli così, cioè questo meccanismo è stato messo in atto dal colonialismo e viene messo in atto tuttora dal neocolonialismo ed è uno dei principi sotto cui si nasconde quello che possiamo chiamare, noi l'abbiamo definito, l'impero del bene, no? Cioè noi portiamo ai popoli del terzo mondo, benessere, diritti umani, civiltà, democrazia. E questi principi chiaramente non fanno altro che ribadire il fatto che quei popoli sono incivili e subumani e quindi da qui partono tutta una serie di possibilità che l'Occidente si prende e si è preso in passato. Allora, proprio per questo è importante il libro che ha scritto Nicoletta Poidimani, noi la ringraziamo tanto di essere qua con noi, perché affronta proprio il problema di come viene costruito il concetto di razza e poi oltretutto analizza la storia del colonialismo italiano, cioè storia e memoria si intrecciano con la necessità nel presente di prendere atto di alcune cose, di alcuni concetti e di riportarli all'attualità. Passo un attimo la parola a Noemi su quello che, cioè, noi abbiamo fatto due ragionamenti su quello che per noi femministe significa questo, ma saremo brevissime e poi passiamo la parola a Nicoletta. No, allora noi avevamo ragionato e già la volta scorsa in realtà avevamo sottolineato il punto da cui eravamo partite nel ragionare su appunto quale fosse il trait d'union tra la deumanizzazione, partendo dal discorso della tortura, passando appunto per la questione del razzismo e della razza, e da quello che appunto riguardava invece il femminismo. L'altra volta avevamo cominciato insomma a dire che tutto ciò che riguarda appunto la deumanizzazione, che riguarda il contesto diciamo femminile, è partito già dalla caccia alle streghe. In questo libro di Silvia Federici in realtà ci spiega molto bene come appunto il ruolo, la costruzione sociale della donna viene piano piano costruita all'interno del capitalismo e quindi poi nella società viene appunto deumanizzata la donna in quanto tale, e quindi ovviamente poi da parte del potere, del sistema sociale, politico-economico, ovviamente lo sfruttamento, l'oppressione, diciamo che è stata abbastanza semplice, e questo lo vediamo quotidianamente quando appunto delle dei comportamenti anche molto banali, come possono essere battute o atteggiamenti comuni, abitudinari, in realtà sono in realtà delle violenze, però queste violenze ormai sono passate perché appunto il soggetto donna viene visto in una, viene deumanizzato e quindi ovviamente può essere appunto oppresso è torturabile, come dicevamo l'altra volta. Per quanto riguarda il legame con la questione della razza, siamo partite in realtà già in delle discussioni che abbiamo fatto in passato su quello che è la definizione che dà anche Colette Guillemin, perdonatemi la pronuncia, e lei appunto ribadisce il fatto che la razza è un costrutto sociale, come lo è ovviamente la definizione di donna, e questo ovviamente ci ha aperto, ovviamente ci ha facilitato a riuscire a vedere bene queste due categorie politiche e a farle ragionare insieme. Cioè il razzismo comunque presuppone sempre del sessismo e anche viceversa in realtà poi alla fine. Io vi volevo leggere uno stralcio preso da appunto da Colette Guillemin. La designazione positiva è quella che concerne l'oggetto del discorso, il gruppo o l'individuo costruito come razza o sesso. La designazione negativa, ovvero la non designazione, si applica al soggetto del discorso. I bianchi, ad esempio, non fanno parte delle persone di colore. Il bianco, il referente, non ha colore. Analogamente, nella designazione dell'appartenenza di sesso, la categoria differenziale è quella di donna. L'uomo è il non detto, l'implicito delle categorie sessuali. Nella categorizzazione delle donne c'è una forma tautologica costante. Si ripete che una donna è una donna, anche quando il genere grammaticale usato già lo ha significato. Una donna viene sempre annunciata dal termine donna, mentre è estremamente raro per un uomo venire designato con il termine uomo. Questo appunto per diciamo dare un minimo di contesto al motivo per cui abbiamo sentito la necessità come collettivo femminista di analizzare appunto questa categoria sociale e politica. Bene, diamo la parola a Nicoletta poi Di Mani e grazie di tutto quello che ci dirai. Sulla fiducia a priori. Sulla simpatia almeno, dai. Sulla fiducia e la simpatia. Vabbè, intanto ciao e grazie di essere qui. Questo libro in realtà è un libro che io avevo pubblicato nel 2009, però vedendo l'involuzione rapidissima che stiamo avendo in questo paese, mi è sembrato importante ripubblicarlo proprio anche come strumento per lotte, mi auguro, che in qualche modo contrastino lo stato di cose presente. E quindi ho proposto all'editore, che è la cooperativa Sensibili alle Foglie, di ripubblicarlo e loro sono stati d'accordissimo e voilà, e c'è questo testo. La particolarità di questo testo è una ricerca che io ho fatto nell'arco di 8 anni tra l'Italia e l'Eritrea. Non è semplicemente un testo storico, ma è un testo in cui analizzo da una prospettiva filosofico-antropologica i lavori degli storici, dei giuristi, eccetera, il discorso medico e come da una parte nel periodo coloniale tutta una serie di discipline convergesse nella costruzione della categoria di razza e dall'altra anche ho cercato di mettere insieme dei lavori bellissimi che hanno fatto gli storici e soprattutto le storiche sul fascismo in Italia e sulle politiche coloniali nelle colonie, ma quello che mancava era proprio la connessione tra questi due aspetti. connessione che per me invece era lampante, era lì visibile, anche grazie a un lavoro che mi ha ispirata, che è La traversata delle streghe nei nomi e nei luoghi di Luciano Parinetto, un testo degli anni 90 del secolo scorso, pubblicato in occasione del cinquecentenario della conquista dell'America. In questo testo Parinetto, che era uno studioso molto rigoroso del fenomeno della stregoneria, ma soprattutto della produzione di streghe come figure di diversità da perseguitare, Parinetto andò ad analizzare come la conquista dell'America abbia rappresentato l'occasione per utilizzare quei territori come il laboratorio delle politiche repressive poi messe in atto in Europa nel 600 nella grande caccia alle streghe. Cioè, ritroviamo effettivamente contro gli indios a giustificare lo sterminio di oltre 65 milioni di indios, uomini e donne, una serie di cliché che verranno poi appunto utilizzati anche in Europa nella caccia alle streghe: il cliché della sodomia, il cliché del cannibalismo, il cliché dell'essere adoratori e adoratrici del diavolo, eccetera. E quindi il capitalismo nascente, che ha bisogno di un'accumulazione originaria, utilizza proprio questi cliché per da una parte sterminare gli indios, ma dall'altra per ucciderli col lavoro schiavistico nelle miniere, per estrarre l'oro e l'argento, ma in particolare l'oro, che verrà a costituire in Europa l'accumulazione originaria. Per me questo libro di Parinetto è stato illuminante e mi è proprio servito per leggere il fenomeno del colonialismo italiano, cioè leggere come le politiche razziali e sessuali applicate dal regime di Mussolini, ma ancor prima dai governi liberali nelle colonie, siano stati appunto sperimentati lì per poi essere applicati in Italia con le famose leggi razziali. Quest'anno, anzi ormai l'anno scorso, ricorreva l'anniversario delle leggi razziali. Si è parlato tanto di olocausto, di sterminio degli ebrei, eccetera, ma non è stata detta una sola parola appunto su questo altro sterminio e su queste leggi razziali costruite e sperimentate prima nelle colonie. Una cosa che io ho trovato gravissima, gravissima da tutti i punti di vista. Addirittura il rettore dell'Università di Pisa, a nome di tutta la conferenza dei rettori, ha chiesto pubblicamente scusa, no, in questa grande cerimonia del ricordo e delle scuse, alla comunità ebraica per l'adesione che i docenti diedero al fascismo col famoso giuramento, ma anche e soprattutto per la sottoscrizione che fecero delle leggi razziali. In questa cerimonia e in tutto quello che è gravitato intorno non è stata detta una sola parola su quello che appunto era stato fatto invece nelle colonie e che vediamo riattivarsi tutt'oggi. Perché l'interesse che mi ha spinta, insomma, a scrivere questo libro era il verificare la persistenza di dispositivi, di stereotipi dell'epoca coloniale nella nostra contemporaneità. Adesso facciamo un percorso per immagini. Nel testo non ci sono queste immagini, io propongo questo percorso, sì no, ma adesso riparte, bisogna pazientare, propongo questo percorso perché è molto utile per... Scusate, è in pausa, va bene. È molto utile per far vedere con i materiali dell'epoca anche il grosso lavoro fatto sull'immaginario delle persone, cioè la costruzione del consenso all'impresa coloniale e la costruzione dell'idea di razza italiana e della superiorità della razza italiana su tutte le altre razze, ha utilizzato molto l'immagine. In quegli anni in Italia il tasso di analfabetismo era ancora molto alto e quindi l'immagine era il mezzo più efficace per veicolare dei discorsi. Quindi io mostrerò come diversi codici comunicativi, che vanno appunto dalla barzelletta alla fotografia privata alla cartolina, in qualche modo siano corrispondenti ai testi giuridici, ai testi medici, cioè come ci sia una bifocalità da una parte nella produzione di una cultura nazional popolare e dall'altra nella sanzione scientifica di queste verità razziali, verità naturalmente tra virgolette, a dimostrazione appunto della superiorità della razza italiana. Ma scusate, ho sbagliato tasto. Vai. Ah, ecco. Ok, sì. Partiamo appunto dalla conquista dell'America. Questa è un'immagine del 600 più o meno, preso dal libro di Anne McClintock, Imperial Leather. Abbiamo Amerigo Vespucci che arriva, sbarca nel Nuovo Mondo portando gli strumenti della civiltà, e America è rappresentata con una donna nuda che in qualche modo è sessualmente invitante nei suoi confronti. Naturalmente è più bassa di lui perché è la superiorità del maschio e del maschio bianco. Però a fronte di questa offerta sessuale si nasconde una minaccia che vediamo qui sullo sfondo, dove sono rappresentate delle donne che stanno cucinando un uomo fatto a pezzi, il cannibalismo appunto delle popolazioni del Nuovo Mondo. Questa è un'immagine del periodo, del primissimo periodo coloniale italiano. È presa da un giornale satirico, l'ha riportato Gianluca Gabrielli in questa raccolta di testi, L'Africa in giardino, e vediamo Crispi che in qualche modo viene invitato sessualmente da Africa, che ancora una volta è una donna nuda che si offre, però si celano delle insidie anche qui. Come nell'immagine del 600 avevamo le donne cannibali sullo sfondo, qui abbiamo questa lunga fila di guerrieri fuori dalla tenda, un guerriero nascosto dietro lo scudo accanto al letto e addirittura il tappeto tigre che ha questo sguardo minaccioso. Ora guardiamo bene come è svestita Africa, come viene rappresentata, quindi un corpo nudo coperto solo da un drappo bianco e con degli ori, perché questa è la rappresentazione nella medesima rivista dell'Italia. Quindi Italia è svestita tanto quanto Africa, ma mentre Africa si offre sessualmente, Italia difende il proprio pudore dallo stesso Crispi che la dà in pasto, la scopre di fronte a questi uomini africani. Questa immagine viene fatta in occasione dell'arrivo di una delegazione dell'imperatore d'Etiopia, di quella che veniva chiamata l'Abissinia dagli italiani. In quei giorni appunto in Italia c'era questa delegazione e la rappresentazione è Crispi che dà in pasto l'Italia a questi subumani. Appunto, prima si diceva la disumanizzazione, la deumanizzazione, oltre a questo sguardo assatanato da stupratore eccetera, vedete che sono animalizzati. L'uomo in basso a destra sta mangiando la buccia di un'anguria come se fosse un maiale, e quindi è comparare queste due immagini già ci fa vedere la costruzione di un immaginario, no? la donna italiana, che poi naturalmente loro per donna italiana intendevano la donna della borghesia, cioè quella che Lombroso chiamava la donna normale, aveva definito la donna normale, cioè la donna bianca di classe media europea, no? E Africa invece che è una donna disponibile. Gli effetti di questa rappresentazione permangono nel tempo. Questa è una barzelletta più o meno degli anni 30, si intitola Terra Vergine, ecco che ancora qui lampantemente il territorio da conquistare viene rappresentato come una donna vergine, ma qui vergine viene usato in senso profondamente ironico. Lo scambio di battute è questo militare italiano che dice alla ragazza: anche te, negretta, pensi che baciare un uomo senza baffi sia come mangiare un uovo senza sale? E lei risponde: ma io non ho mai, come mi vorresti dare a intendere, non ho mai mangiato un uovo senza sale. Quindi naturalmente ora torniamo indietro di un bel po' di decenni, e baciare tanti uomini naturalmente significava essere una donna facile. Ci stiamo tornando a una concezione di questo genere comunque, e quindi ecco che vergine assume questo senso ironico. Ma appunto la terra vergine è la terra da conquistare, e vediamo l'utilizzo di questo termine negretta che ci fa risuonare molto il faccetta nera, cioè questi vezzeggiativi che sono in realtà dei termini anche fortemente infantilizzanti. Questa è la realtà. Qui siamo a Massawa, dove gli italiani arrivano più o meno alla fine degli anni 80 dell'Ottocento. Prima si insediano a Massawa, che è sulla costa, e questo è il circolo ufficiale, la compagnia di ballo Teodoro, cioè questa compagnia di ballo e questa band musicale che allietava le serate dei militari italiani. Voi vedete le ragazze sullo sfondo, le ballerine della compagnia di ballo, che sono giovanissime ragazze a seno nudo, e vediamo qua davanti altre ragazze su cui appunto i vari personaggi, i vari militari e musicisti mettono le mani addosso. Ora, qua, con l'arrivo, come sempre nelle missioni di guerra e di pace, con l'arrivo dei militari c'è un forte sviluppo della prostituzione. Quando gli italiani arrivarono in quella terra che era dell'impero etiopico, ma che loro denominarono Eritrea, applicarono immediatamente le leggi italiane sulla prostituzione, quindi crearono le case chiuse, eccetera, e i controlli medico-sanitari per garantire la sanità degli uomini che andavano con queste donne, non per tutelare la salute di queste donne. Non è che non esistessero delle forme di prostituzione all'epoca, ma c'era la prostituzione di corte, che erano donne colte, che in realtà erano sì delle vere e proprie cortigiane, oppure c'era una forma di prostituzione autogestita da parte di donne che avevano delle capanne come dei bar in cui vendevano una bevanda fermentata, il tech, che è una sorta quasi di birra fatta artigianalmente, e quando volevano arrotondare le entrate avevano rapporti sessuali a pagamento, però appunto erano loro che decidevano e autogestivano. Gli italiani invece impongono le leggi italiane sulla prostituzione. Mi interessa qui farvi vedere l'età di queste ragazze, perché queste sono invece cartoline. Allora, oggi ci sono, come dire, si moltiplicano i discorsi moralisti, la pedofilia, il turismo sessuale, ma in realtà l'impresa coloniale italiana si basa proprio sul solleticare la pedofilia degli italiani, cioè l'idea di vai a stare nelle colonie, vai come militare a conquistarle, vai come civile a lavorare nell'amministrazione o a fare il muratore, eccetera, eccetera, e non solo avrai una promozione sociale, ma questo sarà il premio della conquista. Quindi le donne e soprattutto le bambine e le ragazzine del Corno d'Africa vengono rappresentate, vengono utilizzate in qualche modo per coartare la forza lavoro maschile nelle colonie e fermare il fenomeno dell'emigrazione degli italiani in altri continenti come le Americhe, piuttosto che in particolare all'epoca erano l'America del Nord e l'America del Sud, più che l'Australia. Comunque fermare questo fenomeno e quindi far sì che la forza lavoro italiana in qualche modo produca un profitto che rimane all'interno dei territori italiani o delle appunto colonie italiane. Sulla fotografia erotica esotica si sviluppa proprio un filone grossissimo. Addirittura a Mogadiscio in Somalia c'era un istituto fotografico, il Fotocine, che era specializzato in nudi femminili. Queste sono altre cartoline dell'epoca. Io trovo molto interessante l'immagine della ragazza con il libro. A me ha fatto porre molte domande questa immagine, perché ho pensato a chi fossero gli italiani che andavano nelle colonie, che erano appunto in gran parte analfabeti. E allora, se tu vuoi in qualche modo solleticare il sentimento suprematista di superiorità razziale nell'italiano che va nelle colonie, e questo italiano è un analfabeto, che senso ha rappresentare la ragazza africana invece come quella che sa leggere, ha un libro in mano? E l'unica spiegazione che mi sono data è che, essendo arrivata l'Italia tardi nell'impresa coloniale rispetto agli altri paesi europei, come compensazione, diciamo, di questo ritardo, l'Italia si vantava di aver colonizzato di tutte le popolazioni africane quelle più civilizzate, quelle meno negroidi dal punto di vista proprio somatico-antropologico, quindi un naso molto sottile, labbra sottili, la pelle bronzata e non nera, e quindi questa superiorità di queste razze. Io uso il termine razza tra virgolette, poi magari questa cosa la spiego, per ora prendetela per buona, però sappiate che in questa epoca si parlava di razza in senso assolutamente positivo e positivista. Ecco, però questa immagine serve proprio a dimostrare come, in qualche modo, secondo me è l'unica spiegazione. Miniemi, che ha pubblicato questo libro molto bello tutto sulle immagini, non dà commenti a questa, però appunto a me ha colpito in maniera particolare, quindi in qualche modo mostrare anche nelle cartoline che gli italiani di fondo stavano costruendo il più civilizzato degli imperi. Queste sono fotocopie di queste foto riportate in questo libro, sono delle foto private. Quindi vedete come la barzelletta, la rivista, l'immagine nella rivista satirica, la cartolina e anche la fotografia privata, di cui abbondano le case qua in Italia, perché i nonni stati nelle colonie, i nonni e i bisnonni, insomma, di queste foto ne avevano molte. Ecco, queste sono foto dove, se guardiamo l'espressione del volto di queste ragazze, che sono lampantemente colte di sorpresa mentre si stanno lavando al fiume, le espressioni ci ricordano le donne deportate nei lager nazisti, costrette a spogliarsi e a correre nude. Poi noi vediamo queste foto, io non oso immaginare quello che c'è stato prima e dopo queste immagini. Questa è un'altra foto classica, il militare italiano che incontra la donna africana seno nudo e si fa fotografare con le mani sul seno di questa donna. Quindi questa come continua conferma della disponibilità delle donne. Questa è un'altra immagine, questa è proprio del periodo della guerra d'Etiopia 35-36, il militare italiano che si fa fotografare mentre tocca il seno di questa donna. Queste sono delle barzellette. Nella prima vediamo, siamo in un ufficio postale, dall'ambientazione esterna capiamo che siamo in Africa. Il militare dice: vorrei spedire ad un mio amico questo ricordo dall'Africa orientale, e il ricordo, il souvenir, è appunto una donna seno nudo. Sulla soglia dell'ufficio postale vediamo due bimbi, di cui uno in via di bianchizzazione, no, perché ha il fez e il camicino, l'altro invece nudo, però questi bimbi sono rappresentati come scimmiette. Se riuscite a vedere bene i tratti del volto, sono rappresentati come scimmiette. Nell'immagine sotto siamo al mercato degli schiavi, e schiave a prezzi da convenirsi. Un militare dice all'altro: mettiamo tanto per uno che poi facciamo a mezzo. Quindi a continuare a riconfermare questa disponibilità delle donne. Tenete conto tra l'altro che in particolare con la fine della guerra d'Etiopia, che tra l'uso delle armi chimiche, dell'iprite e gli stermini che vennero fatti, c'erano in giro moltissime bambine e ragazzine rimaste orfane. Gli italiani presero nelle loro case queste ragazzine, queste bambine, facendone delle proprie schiave sessuali e domestiche. Ci sono testimonianze di bambine tenute legate al termosifone, no? Gli italiani costruivano queste case stile villetta italiana, tenute legate al termosifone, incatenate al termosifone, erano le orfane della guerra d'Etiopia, ma tutte queste cose ci arriveremo. Partiamo intanto da qui. Allora, questa appunto, vi ho detto che gli italiani arrivati a Massawa imposero subito le leggi italiane sulla prostituzione, però già nel periodo liberale c'era una particolare attenzione sulla salute sessuale degli italiani nelle colonie, in particolare dei militari. Perché? Perché questi militari avevano comunque la famiglia in Italia, quindi diciamo che se prendevano la sifilide poi l'avrebbero trasmessa alla moglie e ci sarebbero stati problemi nei nascituri. E quindi le gerarchie militari preferirono tollerare una sorta di rapporto a termine chiamato madamato tra gli italiani e delle giovani donne che appunto venivano utilizzate come schiave sessuali e domestiche. Questo già dal periodo liberale. Figuratevi appunto quando si trovano poi questa abbondanza di orfane a metà degli anni 30. Qui vedete lampante la differenza di età tra l'uomo e questa donna. Questa è un'immagine molto rara, è stata bravissima Barbara Sorgoni a stanarla, perché è immagine di una cosiddetta madama con il figlio meticcio. Ora voi capite che già chiamare queste donne madame è un termine denigratorio, perché la madame era la tenutaria del bordello e quindi in qualche modo era un modo per definirle come delle prostitute, cioè non delle mogli, delle compagne, ma delle prostitute. Questi rapporti di madamato però, facilitati soprattutto nel primo periodo coloniale, in quello liberale e nella prima fase del fascismo, si svilupparono in maniera, si diffusero in maniera esponenziale, e da queste relazioni nascevano tantissimi bimbi meticci che naturalmente nella stragrande maggioranza dei casi venivano abbandonati dai padri quando i padri ritornavano in Italia, o la madre dei bambini invecchiava e quindi si prendevano una ragazza più giovane, e naturalmente era pieno di questi meticci figli di italiani che però non avevano avuto il riconoscimento del padre. Questo sarà un cruccio enorme per il regime di Mussolini, in particolare dopo il 1936, cioè dal maggio del 36 in poi. Perché? Perché nel maggio 36, con la conquista dell'Etiopia, la fine della guerra d'Etiopia, la conquista di Addis Abeba, viene dichiarata la nascita dell'impero italiano dell'Africa orientale. con questa dichiarazione viene sancita una netta separazione tramite leggi tra i cosiddetti cittadini, cioè gli europei, e i sudditi. Il meticcio è uno scandalo perché è cittadino o è suddito, è figlio di un cittadino, ma è comunque scuro, è più scuro degli italiani, è un mezzo sangue africano. Quindi Mussolini cercherà in tutti i modi di bloccare il fenomeno del meticciato, che in realtà continuerà a crescere esponenzialmente, perché con la dichiarazione dell'impero sono tantissimi gli italiani che vanno a stare nelle colonie in cerca di fortuna per promozione sociale. Il proletario e sottoproletario in Italia nelle colonie diventava il padroncino, aveva il suo furgone, girava portando delle cose, quindi in qualche modo faceva i soldi che non riusciva, cioè ed aveva un tenore di vita che non riusciva ad avere qua. E quindi sono tantissimi gli uomini che vanno nelle colonie, per cui io riporto i dati nel libro di questo incremento delle nascite di meticci. Mussolini, sappiamo da suo genero Ciano, arrivò a pensare allo sterminio dei meticci, anche questo, no? Per esempio, mi dico, si parla di olocausto, ma parliamo anche di questo, perché anche questo fa parte della storia d'Italia, no? Degli orrori della storia d'Italia. E alla fine Mussolini pensò, per risolvere il problema del meticciato, di portare o deportare 1 milione di donne italiane nelle colonie. E a questo ci arriveremo, perché queste donne venivano formate ad hoc. Però adesso rimaniamo su questa questione del meticciato. Io vi ho parlato appunto del 36 come momento in cui incomincia una nuova fase, perché da che io ho verificato non c'è soluzione di continuità tra il periodo liberale e il periodo fascista nelle politiche razziali e nelle politiche sessuali. Sarà invece dopo la dichiarazione dell'impero, quindi nel periodo imperiale fascista, che invece prenderà vita proprio completamente un nuovo corso, e tutte quelle donne che prima abbiamo visto erano state rappresentate come belle, giovani e disponibili, servizievoli e come soprattutto premio della conquista, vengono rovesciate nella loro rappresentazione. Questa barzelletta, che è una semplice barzelletta, dal mio punto di vista è un vero e proprio documento. Si intitola Le parole e i fatti al burro rancido. Una donna dice all'altra: chi è quel bianco che passandoci vicino è scappato via tappandosi il naso? È l'autore delle parole di Faccetta Nera. Come a dire, quello che ha scritto Faccetta Nera, questa canzone appunto che accompagnò i militari italiani nella guerra d'Etiopia, la radio fascista continuava a mandarla, ha un testo che dopo la dichiarazione dell'impero non può più assolutamente circolare, perché a parte la retorica della missione civilizzatrice, della liberazione dalla schiavitù, però per esempio dice: Faccetta Nera sarai romana, sarai camicia nera pure tu, e non è concepibile che Faccetta Nera sia romana se è una suddita, no? Quindi questa netta separazione tra le razze. Oppure c'è una strofa di Faccetta Nera che è molto eloquente, dice: la legge nostra è schiavitù d'amore, non è che ci sia bisogno di fare la didascalia, no? E allora sostanzialmente cosa ci dice questa barzelletta? Colui che ha scritto questa canzone, che ha dato la rappresentazione di Faccetta Nera di un certo tipo, quando si trova davanti la vera Faccetta Nera, la vera donna africana, se ne scappa via schifato tappandosi il naso, perché queste donne puzzano, e puzzano di burro rancido. Il burro rancido è ha un odore un po' tipo il burro di karité, un po' più forte, e le donne africane, ma molto soprattutto nel Corno d'Africa, usano metterlo nei capelli per ammorbidirlo. Effettivamente non ha un odore buono, no? Però dalla rappresentazione di queste donne giovani, belle e disponibili, si arriva alla rappresentazione invece delle donne puzzolenti e soprattutto portatrici di malattie. Cioè il discorso sulla salute diventa un dispositivo di controllo, esattamente una cosa che abbiamo ritrovato anche oggi. Avete in mente che non più di un paio di mesi fa su Libero, che non è proprio il massimo delle testate italiane, però è uscito un titolone: torna il colera a Napoli, lo hanno portato gli immigrati, cioè appunto l'immigrato come portatore di malattie. Continuano a ripetere questa cosa rispetto alla TBC, eccetera. A me è capitato, per esempio, nel paesello in cui vivo io vivo in montagna, un paesello di 300 anime, hanno portato con il discorso dell'accoglienza diffusa 12 ragazzi nigeriani all'assemblea di paese. Era veramente allucinante sentire gli abitanti del paese che dicevano: ma sono vaccinati e secondo me hanno il tifo e ci portano questo. Cioè questa idea dello straniero come portatore di malattie, ma non è una cosa di oggi, appunto, è una cosa. Io qui riporto un lungo brano tratto da un romanzo scritto peraltro da una donna nel periodo imperiale, che fa l'elenco di tutte le malattie che queste donne possono portare. Naturalmente poi l'assillo era soprattutto sulla sifilide. Se voi avete in mente il libro di Flaiano, Tempo di uccidere, che è un libro che parla poi di fondo anche di uno stupro coloniale, la ragazza per cui lui, che lui stupra e poi naturalmente lei lo guarda con gli occhi innamorati e che alla fine lui ucciderà per sbaglio, è una ragazza che ha una malattia e lui scoprirà che questa malattia è la lebbra. Questo viene così rappresentato nel film, ma in realtà la malattia è la sifilide, e questo si evince dal fatto che Flaiano parla di queste ragazze con una fascia qua, come una sorta di benda, di fazzoletto di cotone intorno alla fronte, che era il modo in cui venivano segnalate con i controlli sanitari le prostitute positive alle malattie sessualmente trasmissibili. Scusa che questo mi va da solo, va bene l'autogestione ma non dei computer. Pausa? No? Eh sì, gliel'ho data pausa. Ce l'ha, sì, ok, ce l'ha. E allora cosa succede? Che a un certo punto questo uomo, questo militare, si ferisce e lei, nonostante sia stata stuprata, eccetera, essendo brava, bella e disponibile, gli fascia la mano togliendosi la fascia che appunto ha qui e gliela mette. E quando lui scopre che quella fascia è in realtà appunto un modo di segnalare la lebbra, ha il panico di aver preso la lebbra. E questa è la storia del libro, no? Quindi appunto anche lì portatrice di malattia, viene diciamo in qualche modo trasformata la sifilide in lebbra, per non parlare di rapporti sessuali, però di questo si tratta. Vabbè, questa è un'immagine, ma è giusto, a me serve per far vedere il cosiddetto impero dell'Africa orientale. Questa è la rivista La difesa della razza, ne avrete sentito sicuramente parlare, è un quindicinale che è stato pubblicato dal 38 al 43, questa è la copertina del primo numero della difesa della razza ed è estremamente significativa perché vediamo, esce nel 38, quindi sono già 2 anni che è stato dichiarato l'impero. E vediamo che il gladio romano separa la testa del cosiddetto ariano romano dall'ebreo e dalla donna africana. Cioè questa separazione tra le razze non è fatta con personaggi tutti di genere maschile, ma è la donna invece che viene utilizzata per rappresentare la cosiddetta razza africana. In questo primo numero della difesa della razza il frontespizio è la pubblicazione del manifesto del razzismo italiano, i famosi 10 punti che Mussolini dettò a questo antropologo Guido Landra, che raccolse poi le firme di 10 dei 10 cosiddetti scienziati razzisti, e ripeto, razzista per loro era un termine positivo, significava quello che lavora alla difesa della razza italiana contro il meticciato, eccetera. Ci sono due cose che volevo aggiungere a ciò che stavo dicendo prima. Quella rappresentazione, prima di arrivare a questo, perché questa rappresentazione della donna africana, questo rovesciamento della rappresentazione, in qualche modo ha un riscontro in quello che succede in Italia, cioè da un giorno all'altro, dopo la conquista dell'Etiopia, Mussolini vieta alla radio fascista di trasmettere la canzone Faccetta Nera. E tutte quelle cartoline che voi avete visto scompaiono. Noi abbiamo questa testimonianza da un giornalista straniero che stava peraltro proprio qua a Roma, scompaiono dalle vetrine dei negozi che invece prima ne erano tappezzate. Cioè, deve cambiare completamente. Questo ci dice anche molto però l'ignoranza dei fascisti nostri contemporanei, che si mettono Faccetta Nera come suoneria sul cellulare e non sanno che invece il loro duce l'aveva vietata. Esce un articolo all'indomani della conquista dell'Etiopia, esce un articolo sul Popolo d'Italia intitolato Moglie e buoi dei paesi tuoi, dove addirittura dove si distrugge la canzone Faccetta Nera e si parla invece dell'importanza di rimanere all'interno della stessa razza, e addirittura viene proposto un testo che è Faccetta Bianca, no? Dove Faccetta Bianca è rappresentata come superiore a Faccetta Nera. Purtroppo mi sono dimenticata di portare l'articolo, scusate, ma con l'età il neurone è un po' così. Però insomma c'è proprio questo taglio netto con il passato, taglio netto che appunto il manifesto del di cui il manifesto del razzismo italiano è testimonianza. Leggiamo almeno i titoli dei 10 punti del manifesto. Le razze umane esistono, esistono grandi razze e piccole razze, il concetto di razza è concetto puramente biologico, la popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana, è una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici, esiste ormai una pura razza italiana, questo punto 6 poi lo approfondiamo, è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. È necessario fare una netta distinzione tra i mediterranei d'Europa occidentali da una parte e gli orientali e gli africani dall'altra. Questo è la chiusura con l'antropologia precedente e l'apertura di una nuova lettura di tipo antropologico finalizzata al razzismo. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. Vi dicevo, il punto 6 è interessante perché al di là del fatto che si continua tutt'oggi a giustificare le leggi razziali italiane con il patto tra Mussolini e Hitler, quindi il povero Mussolini che di fondo si è trovato costretto per questa alleanza, no, a fare le leggi razziali, non è assolutamente vero, perché abbiamo visto che le leggi razziali sono preesistenti, adesso poi le analizzeremo anche, ma addirittura mentre il razzismo nazista si richiamava ad un tempo passato, lontano, mitologico quasi, mitico e mitologico, recuperando il mito dell'arianesimo, in realtà in Italia c'è un problema sulla costruzione della razza italiana, perché l'Italia era stata unificata da pochi decenni ed era profondo il razzismo tra italiani del nord e degli italiani del nord nei confronti degli italiani del sud. Tutta l'antropologia di fine Ottocento, compreso Lombroso che se ne va a studiare, i briganti, eccetera, confermano l'inferiorità delle razze che ci sono nel sud d'Italia, no? Vengono chiamati africani con due F, tra l'altro, vengono definiti così. Quindi il problema che si trova davanti il regime fascista, ma prima di lui i governi liberali, è quello di costruire l'unità nazionale, e l'unità nazionale deve essere costruita come unità razziale prima di tutto. Quindi per la difesa della razza, la pura razza italiana non è qualcosa da andare a recuperare in un lontano passato, ma è un progetto per l'avvenire. Ed ecco perché c'è un moltiplicarsi di leggi, per esempio, per regolare la questione del madamato, del meticciato, delle unioni miste. Cioè è in avanti che noi dobbiamo guardare. E questo progetto lavora su due piani contemporanei: nelle colonie, con appunto le politiche contro il madamato che iniziano già dal 36-37, la costituzione di una vera e propria polizia sessuale, cioè una parte dei carabinieri che irrompevano nelle case degli italiani per vedere se erano a letto con le loro cameriere, raccoglievano le testimonianze, le informazioni dei vari vicini di casa per sapere se secondo loro ci fossero dei rapporti sessuali, ma soprattutto dei rapporti affettivi, cioè dei rapporti che coinvolgevano affettivamente l'uomo italiano, no? Perché? Perché infatti viene fatta una legge che è del 37, che si chiama Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi. Queste sanzioni prevedevano una pena che andava da 1 a 5 anni per l'italiano che veniva scoperto avere rapporti sessuali con una colonizzata. La pena era tanto più alta quanto più quella relazione assomigliava a una relazione di coppia, cioè l'aggravante era l'affectio maritalis, la dimostrazione di un affetto maritale. Quindi quanto più la relazione assomigliava allo stupro coloniale, tanto più bassa era la pena. Ma se era dimostrato anche un coinvolgimento emotivo dell'italiano, la pena era più alta. E quindi se dal vicino di casa, questo viene fuori dagli atti dei processi, si viene a sapere che lui le ha fatto una scenata di gelosia o che le ha dato dei soldi per curare una sorella, eccetera, allora questa diventa una aggravante. Questo è il modo, appunto, per fermare il fenomeno del meticciato bisogna andare alla radice, cioè a questi rapporti di indole coniugale. Quindi non viene messo in discussione lo stupro coloniale, viene messo in discussione quella relazione da cui nascono poi dei meticci. Ed ecco che allora questa pura razza italiana, questo progetto, appunto nelle colonie è gestito in questa maniera, in Italia è gestito viene gestito nelle zone bonificate, cioè le zone bonificate, di questo si occupa Almirante, Giorgio Almirante, che fu poi segretario dell'MSI nel dopoguerra, oggi gli intitolano strade e piazze, era uno dei giornalisti che scriveva sulla difesa della razza e che nei vari numeri, in alcuni numeri della difesa della razza, tiene questa rubrica Viaggio razziale attraverso l'Italia, e va a vedere appunto nelle zone bonificate, piuttosto che a Carbonia, in Sardegna, eccetera, come si stanno mescolando i diversi gruppi etnici italiani e quindi come sta funzionando questo allevamento della nuova razza italiana. E ci sono proprio i dati statistici, è interessante, è proprio un'idea di vero e proprio allevamento. E non per nulla tra i firmatari del manifesto del razzismo italiano troviamo anche uno zoologo, ma adesso andiamo a vedere chi sono i personaggi: Lino Businco, Lidio Cipriani, Arturo Donaggio, Leone Franzì, Guido Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savornian, Sabato Visco, Edoardo Zavattari. Questi sono i firmatari del manifesto razzista. Questa è una loro brevissima biografia, diciamo finalizzata, chiaramente non sto a raccontare la rava e la fava, ma finalizzata a un discorso che ci può interessare molto e ci può chiarire le idee. Quello che io ho scritto in viola, per esempio Sabato Visco, che era direttore dell'Istituto di Fisiologia Generale dell'Ateneo Romano e dell'Istituto di Biologia del CNR, aveva retto anche l'Ufficio per la Razza e nell'Italia post-fascista mantenne a lungo il titolo di preside della Facoltà di Scienze dell'Ateneo. Nicola Pende, che era un genetista, continua ad insegnare fino al 55, se ne va tranquillamente in pensione. Cioè, con la fine del fascismo non sono soltanto i questori del periodo fascista che vengono riciclati, eccetera, ma tutti questi personaggi continuano tranquillamente il loro lavoro nelle cattedre universitarie e quindi continuano a diffondere quella cultura razzista che avevano contribuito a creare e a confermare. Lidio Cipriani, orrendo personaggio, lui è un antropologo, tra l'altro molto prolifico, che appunto si occupava di, cioè la sua fissa era documentare l'innata inferiorità mentale degli africani e continua tranquillamente coi soldi statali a compiere anche dopo il fascismo spedizioni di ricerca antropologica in giro. Cipriani scrisse anche L'impero etiopico, un assurdo etnico, un libro del 1935 che serviva a giustificare dal punto di vista antropologico la guerra d'Etiopia, no? Giusto per vedere appunto le continuità con il presente. Zavattari, direttore dell'Istituto di Zoologia, appunto serve lo zoologo perché si fanno dei veri e propri allevamenti, no? Per costruire la razza italiana, mantiene il ruolo di direttore dell'istituto fino al 56. Insomma, tutti questi personaggi se ne vanno tranquillamente in pensione dopo il fascismo. Questo è un articolo preso dal primo numero della Difesa della Razza. Io lo mostro perché è estremamente significativo, intanto per farci capire un po' come fosse fatta questa rivista, dove l'immagine, come vedete, è preponderante sul testo. E in effetti io mi sono letta tutte le cinque annate, i testi sono molto ripetitivi, sono dei testi fotocopia. Quello che parla di più è l'immagine, l'utilizzo dell'immagine. D'altronde sappiamo che insomma il fascismo ha saputo lavorare anche molto bene con l'immagine, non è di certo una scoperta oggi del team di Salvini con i suoi tweet, insomma. L'autore di questo articolo è Guido Landra, cioè quello che scrisse i 10 punti, scrisse materialmente i 10 punti dettati nelle sue linee essenziali, nelle loro linee essenziali da Mussolini. L'articolo si intitola I bastardi, cioè è un articolo sul meticciato e questo è il linguaggio che viene utilizzato. Ma cosa molto interessante, è un articolo che parla sostanzialmente del pericolo del meticciato per la purezza della razza, ma quello che è interessante è vedere che le immagini di meticci riportate in questo articolo non sono di meticci italo-africani, cioè il meticciato è nominato come un fantasma, deve fare paura ma non si può mostrarlo come esistente, cioè è un lavoro preventivo, no? In qualche modo che viene fatto sulla difesa della razza che è diffusa soprattutto in Italia e quindi i meticci che vengono rappresentati sono meticci franco-indocinesi. Poi viene riportata questa immagine, che in realtà è un disegno fatto a matita, di questa donna ottentotta. Su questa immagine Barbara Sorgoni, che è l'antropologa che citavo prima, ha scritto un interessante articolo perché praticamente Guido Landra si inventa una teoria antropologica e dice: vedete quanto è mostruosa questa donna, che fattezze, che corpo deforme, è perché è una meticcia, cioè perché gli ottentotti sono il frutto dell'incrocio razziale tra i boscimani e i contadini olandesi che andarono a colonizzare quelle terre, sostanzialmente il Sudafrica. Il prodotto di questo incrocio è mostruoso. E non è assolutamente vero, sia perché gli Ottentotti sono un gruppo etnico a sé, e quindi dal punto di vista antropologico questa cosa è una falsità, ma è interessante capire perché abbia utilizzato questa donna. Ora, voi avrete sentito parlare della Venere Ottentotta, della cosiddetta Venere Ottentotta, Sarti Bartman, che era questa donna sudafricana che all'inizio dell'Ottocento venne portata in Europa e costretta, giovanissima, per 5 anni a esibirsi negli zoo umani e a prostituirsi. Lei veniva tenuta in una gabbia a carponi ed era vestita solo con una sorta di drappo di pezza qua davanti, però stando carponi era praticamente completamente nuda e visibile da tutti. Quando Sarti Bartman morì, dopo questa vita, insomma, è morta giovanissima, il suo corpo venne fatto a pezzi da Cuvier, in particolare, comunque dagli antropologi che l'avevano già studiata quando era in vita, e al Museo di Antropologia di Parigi vennero conservati i suoi resti, in particolare il cervello, lo scheletro e i genitali. I genitali che suscitavano un forte interesse perché aveva una clitoride molto pronunciata. Questo succede all'inizio dell'Ottocento, ma Lombroso, nel suo libro La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, che è un libro di fine Ottocento che però viene pubblicato ancora fino al 1923-1925, poi Lombroso, in quanto ebreo, non verrà più preso in considerazione, alla fine del testo, nelle sue tavole, mette proprio le foto di i disegni di donne ottentotte e dei genitali delle ottentotte comparati con i genitali delle europee, parlando di anomalie vulvari, cioè come appunto esiste questa donna normale che è la donna europea di classe media, ma soprattutto la teoria di Lombroso in quel testo, la teoria di Lombroso in quel testo è che un popolo è tanto più civilizzato quanto più la differenza sessuale tra uomo e donna è marcata. Quindi, se i caratteri sessuali sono simili, come ad esempio una clitoride pronunciata, si tratta di un popolo primitivo, più vicino agli animali che agli esseri umani. Questa, detta molto a grandi linee, è la teoria di Lombroso di fondo sulla superiorità razziale degli europei e sulla superiorità di classe della classe media europea sui proletari, perché poi Lombroso parla anche della prostituta e queste anomalie vulvari le ritrova anche in molte prostitute. Quindi tutto questo per dire che Landra in questo articolo attinge ad un immaginario che è già stratificato, è già cristallizzato, rafforzandolo e riportandolo ad un discorso che a lui in questo momento interessa, cioè la lotta contro il meticciato. Questi invece sono dei meticci italo-africani, italo-eritrei, ma li troviamo fotografati e riportati su questa rivista perché la rivista Etiopia è l'equivalente della Difesa della razza, ma diffuso nelle colonie. Più o meno gli autori sono gli stessi, le tematiche sono le stesse e quindi anche lì articoli contro il meticciato, però ad Asmara, per esempio, ad Addis Abeba era lampante il fenomeno del meticciato. Anche perché molti di questi meticci abbandonati dai padri italiani, le madri non riuscivano a mantenerli e quindi venivano dati a questo istituto che è un istituto dei francescani, mi sembra, sì, per i meticci, dove c'erano i frati francescani e le suore si occupavano delle ragazze meticce e i frati dei ragazzi meticci, gli davano una formazione minima per renderli in qualche modo adatti al lavoro, però naturalmente una formazione minima, perché dovevano rimanere inferiore agli italiani. Gli italiani dovevano essere i loro capi e ai ragazzi si davano delle competenze tecniche per andare a fare i meccanici. Cioè, se andate oggi ad Asmara, oggi non lo so più, magari sono anche ormai morti, però quando sono stata io ad Asmara all'inizio, insomma, del 2000, tra il 2001 e il 2003, tantissimi meccanici meticci, infatti, no? Non per caso, tutti con nomi italiani ma i tratti eritrei. E alle ragazze invece veniva insegnato a essere delle brave donne di servizio nelle case delle famiglie italiane. E quindi appunto il meticcio italo-africano è rappresentabile soltanto là dove è anche visibile, ma se non è visibile come in Italia, ecco che la difesa della razza lo tratta come se fosse un fantasma, una minaccia, ecco, non una realtà. Vabbè, questa è la tipica famiglia rurale italiana che piace tanto a Mussolini, siete voi che rappresentate la razza nel suo significato più profondo e immutabile. Voi non fate i matrimoni misti, i vostri amori non escono dalla cerchia del villaggio, tutt'al più della provincia. Allora, vi dicevo che Mussolini, per fermare il fenomeno del meticciato, cerca di fermare il fenomeno del madamato, non riuscendoci con le leggi, ci prova mandando le donne italiane nelle colonie. Gli orfanotrofi in Italia diventano, in particolare gli orfanotrofi, diventano un vero e proprio serbatoio per queste potenziali mogli di italiani nelle colonie, donne comunque orfane o donne povere, proletarie e sottoproletarie. Volete entrare? Magari vi vedo lì. Mi spiace. C'è posto, c'è posto. Allora, naturalmente per mandare, non è che si potesse prendere le donne italiane, dargli un biglietto e mandarle nelle colonie, bisognava fargli una formazione. E quindi nascono questi corsi di formazione coloniale per donne. Ci sono anche i corsi di formazione coloniale per uomini, ma questi corsi di formazione coloniale per donne sono ciò che interessa a noi. Allora, intanto, vabbè, qui. La donna italiana in Africa, baluardo per la difesa della razza e del nostro prestigio di dominatori, insomma, non ha bisogno di commenti. Ma chi sono queste donne? Questa foto che cosa ci rappresenta? Allora, queste donne facevano questi 3 mesi di corso di formazione coloniale, poi venivano mandate per 15 giorni in Libia per vedere che reazione aveva il loro corpo al cambiamento di clima. Per esempio, questo assillo riproduttivo che ha Mussolini, il regime di Mussolini, io nel mio libro parlo di uteri littori al servizio della razza, no? Per la difesa della razza. Se a queste donne i cambiamenti di temperatura, di clima, di alimentazione, di tutto generavano dei problemi nel ciclo mestruale, non erano molto adatte allora ad andare nelle colonie perché ne andava della loro capacità riproduttiva, no? E quindi in qualche modo c'erano questi 15 giorni sperimentali di campo, di campeggio in Libia, la Libia era una delle colonie italiane e faceva parte dell'impero. Libia, tra l'altro, ricordiamoci l'impresa di Libia, anche tanto sostenuta e auspicata dai socialisti italiani, è sempre bene ricordare queste cose, e ancora lì siamo, peraltro, e ancora lì siamo. Comunque, ecco, queste sono le donne che stanno partendo per questo campo. Questa è un'altra immagine che fa vedere alcune delle competenze che venivano trasmesse a queste donne. Interessante l'immagine in cui vediamo che alle donne insegnavano anche a sparare. Cioè, quello che è interessante di questi corsi è che Mussolini mette in atto una doppia politica nei confronti delle donne. Per le donne italiane che sarebbero rimaste in Italia, si prevedeva un futuro di madri e mogli prolifiche. Fine. Mussolini fece una durissima lotta contro il lavoro e anche contro l'istruzione delle donne, no? Voi sapete che appunto durante la Prima Guerra Mondiale tutti gli uomini al fronte, le donne lavorano nelle fabbriche, quando i superstiti tornano dal fronte, le donne dicono un attimo, non vogliamo tornare a casa, quindi quello è un problema. Incomincia una serie di rivendicazioni da parte delle associazioni femminili che Mussolini nella fase iniziale in qualche modo cercherà di compiacere, ma andando poi invece a lavorare sempre di più sulle madri prolifiche. E le stesse riviste femminili come l'Almanacco della Donna Italiana, che in realtà era una rivista, una pubblicazione che aveva anche degli afflati di tipo emancipatorio, convergono invece completamente sul progetto razzista del regime. Però ecco, quello che è interessante è la donna che resta in Italia, madre prolifica. La donna che va nelle colonie invece deve avere delle competenze in più. Perché? Perché i meticci erano stati utilizzati già dall'epoca liberale per lavorare nell'amministrazione coloniale in una fascia, diciamo, bassa intermedia, perché erano bilingue, perché avevano una maggiore resistenza al clima in certe zone dei territori coloniali, e però con la netta separazione tra cittadini e sudditi sancita dal 36 in poi non ci può più essere una promiscuità di razze nei luoghi di lavoro, e allora si preferisce avere una promiscuità di generi, cioè sostituire questi meticci con alcune delle donne che andranno nelle colonie. Ed ecco che quindi, in qualche modo, per le donne che vanno nelle colonie è preso in considerazione invece l'opportunità del lavoro femminile, ma finalizzato alla difesa della razza. Questo è il programma delle scuole coloniali. Storia e religione dei nostri possedimenti d'oltremare, geografia e economia coloniale, problemi dell'espansione coloniale, assistenza ai lavoratori delle colonie, il lavoro di cura non può mai mancare, difesa della razza, prestigio della razza italiana nei confronti della popolazione indigena, importanza dell'azione della donna italiana nell'impero, collaborazione della donna nella lotta contro il meticciato, cioè sì, instillava nella testa di queste donne l'idea che loro dovessero essere più sottomesse e remissive delle eritree o delle etiopiche o delle somale, ma soprattutto in Eritrea e Etiopia che avviene il fenomeno del meticciato, così da distogliere gli italiani dalle veneri nere. Potenziamento della dignità e della coscienza coloniale, preparazione materiale e morale della donna italiana che si accinge a trasferirsi nell'impero. E poi vabbè, la parte pratica è tutta molto autarchica. Interessante questa preparazione morale, perché? Perché se fa orrore l'idea, fa scandalo il rapporto di indole coniugale tra un italiano e una suddita, fa vero e proprio orrore l'idea che una italiana possa andare con un africano. Perché? Perché la scienza dell'epoca sosteneva che nella divisione sessuale del lavoro riproduttivo l'uomo fosse il portatore del patrimonio culturale della razza, la donna portatrice del patrimonio genetico. Quindi le viene attribuito un di più, tanto di più di responsabilità nella difesa di questo patrimonio genetico, alias di questo sangue su cui si basa lo ius sanguinis, che è il pilastro della cittadinanza in Italia a tutt'oggi, cioè i fratelli d'Italia, figli della stessa madre, eccetera, e voilà, è sempre storia del razzismo italiano. Quindi intorno alle donne che andavano nelle colonie si costruiva un vero e proprio cordone sanitario e di controllo sociale affinché i loro comportamenti non destassero in qualche modo, non dessero adito, insomma, ma nemmeno all'idea di rapporti sessuali, di una confidenza tra queste donne. Addirittura, cioè, la persecuzione è così forte che, per esempio, Quando viene celebrato qui a Roma, viene celebrata la fondazione dell'impero dell'Africa orientale italiana, grande sfilata con tutti i corpi militari che avevano conquistato l'Etiopia, e ci sono anche gli Ascari, che erano gli eritrei che lavoravano nell'esercito italiano, quelli mandati al massacro ogni volta in prima linea. Alcuni di questi Ascari conobbero delle ragazze italiane e intrattennero queste ragazze una corrispondenza con questi uomini. Vennero perseguitate, alcune mandate al confino, cioè era proprio durissima l'azione contro la donna, come a dire, l'uomo si sa, no? D'altronde lo si sostiene a tutt'oggi, non controlla l'istinto e la donna lo deve controllare di più. E per cui, appunto, vedete che di più di responsabilità da tutti i punti di vista, non solo il lavoro di cura e di assistenza, l'essere una Croce Rossina, ma difesa della razza, del prestigio della razza italiana, no? E quindi un continuo dover rimarcare la superiorità, questo prestigio di razza, la superiorità della razza italiana. Addirittura il potenziamento della coscienza coloniale. Perché bisognava crearla questa coscienza coloniale, questa coscienza imperiale, cioè in questi italiani, appunto, proletari e sottoproletari che andavano nei territori dell'impero, doveva venire instillata questa cosa: non siete simili a loro, perché invece ci sono stati moltissimi casi in qualche modo di relazioni di fratellanza tra italiani e colonizzati, anche degli intrallazzi. Una ricercatrice qua di Roma, adesso ora non sto dove stia, da Francesca Locatelli, che era insieme a me ad Asmara, lei lavorava sull'urbanistica razzista e aveva trovato proprio gli atti dei processi a italiani che facevano gli inciuci con la gente del posto, insomma, ha scoperto addirittura anche dei finti stemmini del PNF, del Partito Nazionale Fascista, messi a prova del processo, insomma, ne combinavano un po' di tutti i colori. Quindi, appunto, questi uomini ne combinavano, o dal punto di vista sessuale, degli intrallazzi, degli inciuci, la donna doveva in qualche modo cercare di mettere ordine in questa situazione. Ok, e appunto, ecco, questo è preso dalla difesa della razza, aspettate che lo blocco, perfetto. La donna che in Africa si dimentica della dignità di razza e concede ai negri un'eccessiva familiarità, compromette le sorti della colonizzazione italiana, compromette le sorti della... cioè, decenni, no, di lavoro per conquistare, di operazioni militari, eccetera, poi arriva la donna, stringe la mano al nativo ed è la fine. Anche qui, come nell'articolo I Bastardi, l'articolo sul meticciato, si dice la donna che in Africa si dimentica, ma non è lei una donna italiana, e lo si capisce dai vestiti che indossa, e lui non è del Corno d'Africa, si capisce dal modo in cui è vestito e anche dai tratti somatici, molto alto, molto scuro, eccetera. Quindi anche qui l'evocazione di un fantasma, di un rischio, ma non come se potesse essere già in atto in qualche modo questa familiarità. Vabbè, questo lo sapete, l'abbiamo utilizzato anche per la locandina, per questa iniziativa, copertina della difesa della razza del 42, molto, appunto, come vi dicevo, l'immagine, no? Donna bianca più uomo nero uguale un essere umano che non solo è mezzo bianco e mezzo nero, ma mezzo uomo e mezza donna, cioè una mostruosità al quadrato, un ibrido di razza e un ibrido di genere. Quello che è interessante, oltre al messaggio che manda di questa doppia mostruosità, è chi sia quell'uomo africano rappresentato, cioè preso ad emblema dell'uomo africano. In realtà, sfogliando le diverse annate, leggendomele della difesa della razza, io ho scoperto che questo era un comunista afroamericano candidato alla segreteria del Partito Comunista Americano, appunto. In un articolo della Difesa della Razza, in un numero della Difesa della Razza anti-americano, contro gli americani, perché comunque era iniziata la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, e l'America veniva rappresentata come la patria di ebrei, negri e comunisti, appunto c'era la sua foto, ecco qua, vedete da chi si fanno comandare, e vedete, no, nero e comunista, quindi il massimo dell'orrore. Qui viene però preso ad emblema dell'uomo africano. È molto curioso, no, questa torsione. Ci avviciniamo alle conclusioni e ci avviciniamo alla contemporaneità. Il manifesto del 44 lo conosciamo tutte e tutti, è un manifesto del periodo della Repubblica Sociale. Difendila potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia, ed è appunto un soldato afroamericano dell'esercito americano rappresentato nell'atto di stuprare una donna italiana. Gli altri due manifesti sono due manifesti di Forza Nuova del 2006 e del 2007. Proteggiamo le nostre donne, no alla cittadinanza per gli immigrati. Questo venne diffuso in particolare a Brescia dopo l'omicidio di Hina, la ragazza pakistana uccisa dal padre e dallo zio. E vedete che appunto proteggiamo le nostre donne, le possenti mani maschili che proteggono queste tre donnine bianche, rosse e verde. Vabbè, quello del 2007 lo ricordiamo benissimo, Roma era tappezzata dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, venne tappezzata appunto da questi manifesti. E torna il "se fosse tua madre, tua moglie o tua figlia", esattamente lo stesso slogan. Ma non solo, questo è, se non sbaglio, dell'estate scorsa o di 2 agosti fa. Viene ripreso il vecchio manifesto da Forza Nuova, "difendila dai nuovi invasori". Il testo è interessante. "Gli stupri, si sa, sono il barbaro infame corollario di ogni guerra di conquista". Uno dice: ah, l'avete capito cosa avete combinato? "Le violenze contro le donne dell'epoca del manifesto a cui siamo ispirati furono contestualizzate all'interno della sconfitta che chiamarono liberazione. Quelle di questi anni e di questi giorni le occultano spudoratamente, tacendo il fatto che sono attuate da nuovi invasori a cui paghiamo vitto, alloggio, bollette, schede telefoniche, cellulari e sigarette. I nuovi barbari sono peggiori di quelli del 43-45, oggi come allora fiancheggiati dai traditori della patria". Quindi vedete questa linea, questo filo nero, io lo chiamo, questa linea di continuità, appunto, dal momento in cui viene dichiarato l'impero italiano dell'Africa orientale nel 1936 e in cui per legge si incomincia a costruire un vero e proprio regime di apartheid. Cioè, noi abbiamo sempre sentito parlare dell'apartheid rispetto al Sudafrica, ma il primo regime di apartheid tramite legge è l'Italia a farlo nelle proprie colonie. E questo, altra cosa di cui si continua a non dire nulla, un vero e proprio regime di segregazione razziale. Cioè, le città avevano una zona per i cittadini e la zona dei sudditi era la zona più malmessa, più malsana, eccetera. I cosiddetti sudditi potevano entrare nella zona dei cittadini solo se dovevano andare a lavorare in un posto preciso. Se venivano invece trovati nella zona europea dei cittadini fuori dall'orario di lavoro, venivano spogliati o spogliate e frustati, seduta stante, insomma. Però ecco appunto, quindi questa linea di continuità, questo orrendo filo nero tra il passato e la contemporaneità. Questo è per far vedere il permanere della mentalità coloniale anche nelle missioni di pace. Questo è l'unico articolo che è stato pubblicato, è un articolo del 2001 pubblicato dall'Espresso, faccio una breve premessa. Voi sapete che proprio a causa degli irrisolti del colonialismo italiano, tra Eritrea ed Etiopia c'è stata una guerra che è andata avanti 30 anni tra il 61 e il 91. Poi si conclude nel 91, nel 93 viene fatto in Eritrea il referendum e l'Eritrea diventa una nazione a sé, non federata all'Etiopia. Tra il 98 e il 2000 riprende in maniera molto più cruenta, perché nel frattempo avevamo anche venduto armi più sofisticate, questa guerra per una questione di confine di un piccolo villaggio che si chiama Badme, ma dove intorno c'erano grandi e interessanti risorse da portar via, riprende questa guerra tra Eritrea ed Etiopia. Le Nazioni Unite decidono di fare una missione di pace. Decidono di fare questa missione di pace e io vado proprio per la prima volta nel 2001, immaginatevi, c'erano le giornate di Genova, io arrivo ad Asmara pieno di carabinieri, cioè è stato anche un po' uno shock. Perché? Perché l'Italia in questa missione di pace aveva il ruolo di polizia militare proprio in nome dei trascorsi coloniali. E proprio in nome del fatto, io l'ho scoperto lì, non li avevo mai visti qua in Italia, che nei carabinieri ci sono un sacco di meticci, che quindi erano bilingue, venivano utilizzati proprio come all'epoca, guarda caso. E allora che cosa succede? Succede che questa missione che si chiamava UNMI, cioè UN Mission for Eritrea and Ethiopia, ironicamente chiamata dagli asmarini You and Me, cioè io e te, proprio per come si comportavano i militari, cioè era lampante girando per le strade di Asmara, ma anche di altre cittadine, ma soprattutto Asmara e Massawa, Asmara in alto piano, Massawa in basso piano, che questi soldati comprassero delle bambine, delle ragazzine appena adolescenti. Era veramente lampante questa cosa. Peraltro io abitavo sempre a casa di ragazze donne eritree, anche perché studiavo anche il Tigrinya per vedere quali termini dell'italiano fossero entrati nel Tigrinya, eccetera. E mi è capitato che venissi redarguita da uomini italiani perché parlavo insieme a dei ragazzi eritrei, cioè quindi quella mentalità permaneva. E però questi uomini italiani che venivano a rimproverare me per i miei comportamenti, appunto non difendevo il prestigio di razza, erano quelli che poi vedevi nei bar e nelle discoteche con due o tre ragazzine che messe insieme non facevano l'età di lui. Cosa succede? Io quando sono tornata ad Asmara ho portato qui in Italia due articoli, uno l'avevo scritto io, uno la Francesca Locatelli, appunto su quello che stavamo vedendo e sulla persistenza quindi di questa mentalità coloniale. Il manifesto non li ha voluti pubblicare, la sgrenama fatto da barriera carta non li ha voluti pubblicare, poi arriva il carabiniere pentito con la videocassetta che dà all'Espresso, e immagino anche che gli abbia dato dei soldi insomma per questo scoop. Esce questo articolo dove si parla appunto di questa questione, soldati, bambini, è un nastro che scotta, e tra i vari personaggi, i vari militari che avevano questi rapporti di sfruttamento sessuale con questi bambini, si parla anche ad esempio di un infermiere della Croce Rossa del nostro contingente che era rimasto invischiato nel meccanismo dare e avere e si era vantato di averlo fatto con bambine di 10 anni. Ecco, questo è il 2001, quindi questo per... Ma vediamo come anche le nostre istituzioni, questo è il vademecum di Polizia Urbana di Padova, ed ecco che all'articolo che riguarda le sanzioni per chi si ferma a contrattare la prestazione sessuale con una prostituta, naturalmente la prostituta la rappresenta con la donna nera. Quindi cos'è? Vabbè, questo niente, è un'immagine che è dell'epoca fascista, ma è stata riutilizzata recentemente, se non sbaglio, da Casa Pound addirittura, però più che altro mi interessa questa immagine per far vedere come già nei bambini piccoli piccoli già il giochino venisse rappresentato col militare italiano che manganella il bimbetto nero. Io mi fermerei qua e vi ringrazio per l'attenzione, perché so, sembra che non passi il tempo, ma sarà passata minimo un'ora e mezza. Ovviamente avrei un altro miliardo di cose da dire, ma ve le risparmio perché c'è anche il libro, però invece mi interesserebbe così a caldo sentire delle vostre considerazioni, poi se volete anche farmi delle domande, però delle vostre considerazioni, nel senso che per me è importante anche capire quanto di queste cose si conoscano, perché poi ogni volta ad ogni presentazione viene fuori chi dice: ma mio nonno, il mio bisnonno, sì, quella foto, piuttosto che mia madre mi diceva, eccetera, eccetera, no? E allora ecco che mettendo insieme i tasselli riusciamo a capire il perché della non solo della persistenza nel presente di questi dispositivi, ma soprattutto come sia facile riattivarli e come anzi questa persistenza abbia aperto la strada a questo razzismo ormai, diciamo, non solo visibile, ma nella sua arroganza, nella sua beceraggine, nella sua violenza più estrema, a cui stiamo, insomma, dico assistendo, perché ancora non stiamo facendo molto come risposta. E per esempio pensiamo a questo, poi veramente chiudo e sento voi. Nel decreto Salvini voi sapete che per esempio sulla questione della cittadinanza, che è stata ancora ulteriormente ristretta l'acquisizione della cittadinanza italiana per chi non ha sangue italiano, appunto lo ius sanguinis, la cittadinanza può essere revocata. Cioè questa cosa è incredibile. Se tu acquisisci la cittadinanza anche se ti sposi con un italiano, questa cittadinanza, se non ti comporti bene, può esserti revocata. È veramente una cosa che ci fa vedere come ancora l'Italia sia legata a quel concetto biologico di razza, che è il concetto che appunto ha nutrito il razzismo fascista, che è stato preponderante. Infatti La difesa della razza come rivista si occupava soprattutto di razzismo biologico, ospitò anche Julius Evola, che come sapete era per un razzismo più di tipo spirituale, più vicino a quello nazista, infatti lui fece poi una rivista bilingue italiano-tedesca su questa questione, però il razzismo del regime era un razzismo di tipo biologico. E ora mi taccio davvero e ascolto voi. E di solito sono ammutoliti perché sì, no, mi rendo conto che sono pugni nello stomaco, per soprattutto per come ce le hanno invece raccontate queste cose, no? Perché vediamo nei libri di storia a scuola è dedicato tanto così, gli italiani brava gente, io non sono razzista ma eccetera. Oh, dico una cosa io. Io non ho la televisione da 15 anni, però ogni tanto torno a trovare i miei e vedo mio padre vede sempre Rai Storia. Quello, diciamo, è come dire, è la storia che entra nella casa degli italiani, di gente che di solito non se ne cura, no? Cioè non è molto interessata magari alla storia. Quindi, diciamo, in qualche maniera è un po' la narrazione di regime che entra nelle case degli italiani su certi argomenti. Spesso c'è qualcosa che c'è un programma che mi pare Sabatucci, che è un professore di storia contemporanea all'università, che è un mediocre, insomma, io vabbè, un assoluto mediocre, che scrive questi manuali, e appunto infatti è lui che tiene questo programma, e spesso ogni tanto mi capita, siccome stanno in fissa con il fascismo, il nazismo esoterico, e ne parlano sempre come se fosse una cosa, una cartolina, eccetera, e c'è questa cosa qui che le leggi razziali, Casa Pound, Forza Nuova no, ma Casa Pound dice sempre un incidente, è stato un incidente. Dall'altra parte, i democratici, insomma, di regime, eccetera, eccetera, ci dicono, è stato un incidente brutto. Cioè, sì, è stato un incidente molto brutto. C'è cioè, questo contrasto fra quanto sia stato un incidente, eccetera. Oggi, seguendo questa, perché poi non ho mai approfondito veramente tanto, quindi sono venuto anche un po', diciamo, da ignorante, ne esce fuori invece un quadro drammatico, cioè di un razzismo fortissimo, che è sistemico, e poi è stato veramente molto interessante per me scoprire quanto ci sia un collegamento appunto fra un razzismo e un sessismo in questi sistemi di controllo, di marginazione, eccetera, di umanizzazione. Quindi molto interessante, insomma, per me è stato molto illuminante questo qua. Non so se, cioè, mi stava venendo in mente adesso solo questa cosa, perché tipo mentre si leggono, anche magari, cioè, se uno vuole approfondire su proprio, cioè, per cercare di scardinare questa cosa del colonialismo italiani brava gente, che è la cosa che arriva a scuola, eccetera eccetera, si iniziano a leggere delle cose, vedere delle cose, però una cosa che per esempio io completamente non è che ho fatto una cosa approfonditissima, però non ho osservato, era il ruolo delle donne italiane quando sono state loro portate nel Corno d'Africa. E quindi mi chiedevo se poi invece questa cosa di aver portato le donne e averle tolte invece dal ruolo di cura che invece magari gli viene poi assegnato è stato anche un po' quello tipo eliminato anche dalle cose più approfondite, oppure non lo so, perché io non so se mi sono riuscita a spiegare, però cioè non riesco a mi chiedevo il perché invece di questa cosa cioè delle donne che sono state portate lì non se ne trova traccia. Cioè, non è che io ho detto, non ho fatto una ricerca approfonditissima, però ho iniziato a cercare delle cose, a cercare di informarmi, e mentre molte cose su quello che succedeva da un punto di vista di diciamo di colonizzazione culturale delle donne diciamo in Africa, in Eritrea, del ruolo delle donne italiane portate lì, io non ne ho mai trovato niente. Quindi mi chiedo se invece è un modo per anche questo tipo eliminare uno spostamento di ruolo delle donne, o per reinserirle in qualcos'altro, però non so, cioè non mi riesco a spiegare, però lo sto un po' visualizzando adesso non sapendone nulla. Una bella domanda. Dai, adesso ti darei una risposta, però è vero, di questa cosa comunque non si sa veramente, si sa poco nulla. Cioè addirittura pensa che quando io ero ad Asmara, e oltre ad andare negli archivi eccetera, a un certo punto sono andata in questa biblioteca di questi padri pavoniani, io non sapevo neanche esistesse, pure questa ennesima roba pretesca, però i padri pavoniani, una biblioteca fornitissima, anche perché aveva materiale ancora dall'epoca coloniale. E parlando con questo fratellezio, che era il bibliotecario che gestiva questa biblioteca, insomma, gli ho dovuto spiegare tutta la ricerca che io stavo facendo e quindi quali sezioni volessi andare a vedere, e lui inizialmente mi guardava e mi diceva: ma cosa sta dicendo? Ma queste non sono cose vere, che Mussolini voleva portare qui le donne italiane, ma no, ma queste sono, cioè, è una roba che si inventa lei. Io sono andata, ho preso un libro del periodo fascista, gliel'ho aperto. Porteremo nell'impero dell'Africa italiana 1 milione di donne, cioè italiane. Quindi, allora, ho detto, vedi, questo non è che l'ho scritto io, vedi quando è stato pubblicato sto libro. Per cui, e addirittura questo che era lì, aveva tutti questi testi, eccetera, e c'erano ancora delle persone, insomma, italiane nate nel periodo coloniale, sia anche dei loro discendenti, cioè nessuno aveva dato questa informazione. Cioè questo fratellezio conosceva tutti gli italiani del filo per segno, quelli che stavano ad Asmara, eppure non ne sapeva nulla. Quindi è stata proprio una, in qualche modo, una rimozione. Poi c'è anche da dire che non venne portato questo milione di donne perché l'Italia perse le colonie prima di riuscire a portarcele, e quindi vabbè, poi c'è tutta la questione del fatto che diventa poi una colonia inglese, cioè un protettorato inglese, eccetera eccetera. Ma questa è un'altra questione. Però addirittura, giusto per dire come ci sia, no, anche questa una forte ambiguità, io ero andata in ambasciata e riporto qui proprio la discussione testuale sbobinata con l'allora segretario dell'ambasciata, perché avevo bisogno dei dati sui meticci che ancora erano in attesa di riconoscimento della cittadinanza italiana. E lui mi ha detto, ma sì, sono circa 150-200, però sa, sì, sono un po' più chiari, ma magari sono figli degli inglesi, no? E me la metteva così. E vabbè, insomma, per cui questo proprio per dire tutte le nascondimenti, insomma, e le rimozioni su quel periodo, cioè addirittura lì. Oppure io ho tentato anche di fare delle interviste agli italiani che erano lì dal periodo coloniale, tra l'altro in questo posto, la casa degli italiani, dove il cancello era retto da due enormi fasci littori di pietra, casa degli italiani dove fino agli anni 80 più o meno non potevano entrare gli eritrei, potevano entrare solo gli italiani, quindi l'apartheid è continuato anche ben oltre. E ho provato a intervistare il primo signore, ho preso il più anziano che c'era, ho detto questo mi saprà raccontare qualcosa, insomma mi ci metto di buzzo buono e gli ho detto, senta, ma si ricorda qualcosa rispetto alle relazioni che venivano chiamate di Madamato? Lui mi guarda, fa, Madamato? Ho detto sì, i rapporti tra gli italiani e le donne qui eritree. Ah, vabbè, ma erano le loro serve, ogni tanto se le montavano. Cioè, lì ho detto, no, io non ho fegato per fare interviste, cioè, o iemeno, oppure ci pensa la Francesca Locatelli a fare le interviste, che ha più pazienza di me. In realtà poi quello che, diciamo, la raccolta di interviste in cui Francesca è stata facilitata, perché soprattutto sulle questioni sessuali tendevano molto a non parlare, soprattutto gli eritrei, sulla questione anche della prostituzione eritrea, eccetera, e mettendo invece un eritreo come mediatore a fare queste interviste, veniva fuori di tutto e di più, insomma. E per cui, però, giusto per darvi un'idea, ecco, prima vi parlavo anche dell'ordine coloniale del linguaggio. In Tigrinia, Tigrinia è una lingua diversissima dall'italiano, viene dall'antico Ghez, che è questa lingua da cui derivano il tigrinia e l'etiopico, però i termini sessuali e domestici, oltre che i termini degli strumenti, martello, eccetera, sono tutti termini italiani nella lingua tigrinia. Cioè andare a prostitute si dice contromuro, sega si dice sega, pompino si dice ciucciotto, cioè, in una lingua che veramente non ha niente, ma niente a che vedere con l'italiano. E questo per me, quando ho scoperto queste cose, è stato incredibile. Guarda, mi sono un attimo persa e dilungata, però appunto l'ho detto, sono un miliardi le informazioni, per cui... Senti, personalmente mi ha colpito questa insistenza della difesa della razza sul tema del meticciato, eccetera, eccetera. Ti spiego perché. Cioè, mi sarei aspettato una maggiore discrezione propagandistica, nel senso, è una rivista che esce in Italia, no? Perché in Etiopia c'è un altro giornale, fratello, cugino, eccetera, eccetera. Quindi non interviene su un problema che è presente nel luogo in cui esce, no? Perché è invece un problema che nasce e finisce nelle colonie, sostanzialmente. È vero che, come tu hai detto, viene evocata come un fantasma e non rappresentata nei termini esatti in cui poi avviene, però mi sarei aspettato la difesa della razza, perché parlarne? Nel senso, facciamo finta che non c'è, magari nei corsi che preparano uomini e donne ad andare nelle colonie, oppure nel giornale edito nelle colonie, ne parliamo per scoraggiarla. Ma perché questo tema è così tanto agitato, in particolar modo quella la copertina che sta nella locandina dell'iniziativa di oggi, è così tanto agitato da una rivista edita in Italia che si rivolge a un popolo italiano e che è una rivista di propaganda sulla pura razza italiana e su quanto appunto cioè, certe pratiche non esistono, non debbano esistere. Cioè, io se fossi stato un fascista, cioè come dire, responsabile della propaganda fascista, responsabile, avrei fatto, cioè non ne avrei proprio parlato. Questa è la riflessione che mi è venuta in mente. Poi un'altra cosa sempre collegata, mentre parlavi mi è venuto da chiedermi, ma la rivendicazione poi fatta nel dopoguerra, quindi in tempi post-fascisti da Montanelli, no? La famosa sua rivendicazione di ciò che fece in terra d'Africa, cioè rispetto quindi al cambio propagandistico effettuato, no? Tra la prima fase e la seconda, quindi la prima fase di sostanzialmente rapporti promiscui tollerati, no? Il madamato e tutto il resto, e la seconda fase invece molto più rigida su questo, sui rapporti misti, sulla promiscuità, eccetera, eccetera. Non lo so, cioè come si colloca, cioè quale dei due influssi agisce di più sul Montanelli poi post-guerra nel rivendicarsi tranquillamente in una trasmissione televisiva? Sì, va, io, ma lì è così, cioè l'ho si sposta. Ho comprato, comunque lì è così, maturano prima. Cioè, sono due propagande talmente di segno opposto, comunque che divergono, che si cambiano il mutare del tempo, che poi ritrovarsi Montanelli in tempi molto successivi a rivendicarsi quella cosa, mi viene da dire, ma incide più il lassismo precedente o incide più poi invece la rigidità delle leggi razziali che poi l'Italia impone nel contesto coloniale e via discorrendo? Sì, allora partiamo intanto dalla prima domanda. Rammentami un attimo perché due domande. Difesa della razza, meticciato, perché okay, nominato perfetto. In Italia. Sì, sì, sì. Allora, intanto i missionari facevano un gran casino sulla questione del meticciato. C'era in particolare questo missionario che si chiamava Padre Mauro da Leonessa, che si occupava appunto dei bambini meticci e che continuava a segnalare all'amministrazione coloniale italiana, ma a far casino anche poi con le istituzioni in Italia, su questo problema di questi bambini che venivano abbandonati dai padri. Quindi comunque il fenomeno in qualche modo era denunciato. La prima legge sul meticciato è del 1914 ed è una legge che impedisce ai metici di fare carriera oltre un certo livello nelle gerarchie militari. Quindi in qualche modo il meticciato era conosciuto. Con il fatto che molti ragazzini meticci venivano cresciuti da questi istituti tipo questo dei francescani eccetera, tanti diventano anche preti, peraltro appunto è un prete meticcio che si sta occupando del riconoscimento della cittadinanza ai metici, quindi queste informazioni in qualche modo giravano. In una fase iniziale, diciamo dopo la conquista dell'impero, Mussolini parla del problema del meticciato, lo pone anche in Parlamento, però nel momento in cui capisce che non riesce ad arginare questo fenomeno, la sua dichiarazione sarà: il problema del meticciato è risolto. Cioè è lì, a maggior ragione, viene invisibilizzato. Però nel frattempo c'erano anche stati casi di amministratori coloniali come Pollera. Lui era un vecchio coloniale, quindi di quelli del periodo arrivati nel periodo prefascista. Lui ebbe, mi pare, due figli con una donna eritrea, poi si separò da questa donna, ma continuò a mantenere lei e i figli e si mise insieme ad un'altra. Nel frattempo però vengono fatte le leggi razziali. E quindi quest'uomo si ritrova con due figli che aveva riconosciuto, che sono cittadini italiani, e due figli che non può riconoscere, cioè che ha riconosciuto, ma a cui non può essere riconosciuta la cittadinanza italiana, e che vengono quindi considerati dei nativi. lui e alcuni altri che, di questi vecchi coloniali che saranno una spina nel fianco del regime, soprattutto nella fase imperiale, faranno grandi casini, grandi appelli per rendere visibile il paradosso della loro situazione. Naturalmente queste sono tutte poi informazioni che circolano. Questa è, può essere una lettura, no? Per cui il fatto che venga trattato come un fantasma è per non dare i dati reali del, del fenomeno, però il fenomeno c'è e si sa, e si sa. Appunto, i preti, i carabinieri, eccetera, cioè tutti questi meticci che andavano poi a fare questi lavori erano lì da vedere. L'altra cosa su Montanelli, è un bel personaggio quello, ma Montanelli tra l'altro c'è stata, voi sapete, Del Boca è uno dei più importanti studiosi del colonialismo italiano, c'è stata una lunga polemica tra Montanelli e Del Boca sulla questione della, in particolare della guerra d'Etiopia, dell'uso delle armi chimiche nella guerra d'Etiopia, che Montanelli negava fosse vera. E in questa polemica sostanzialmente poi si è capito questo, cioè Montanelli in Etiopia c'è sta, nella guerra d'Etiopia come militare c'è stato pochissimo, perché è stato ferito a un tallone, si è dato più o meno alla macchia, si è dato malato e se l'è risolta così. Quindi probabilmente anche tutta la sua narrazione è un po' frutto di questo. La rivendicazione, lui dice, era come un'animalina, no? Mi pulivo le scarpe con i suoi capelli, cioè racconta delle cose, proprio la deumanizzazione del soggetto, è proprio reificata completamente questa ragazza. Quindi sono due cose, come dire, una dimensione personale che, di cui lui racconta, e poi una dimensione che invece è l'impresa e la coloniale, la costruzione dell'impero, le tratta proprio in maniera separata. Ecco, quello è un accidente, non un incidente, ma un accidente. Sì, la cosa che mi colpiva è che da un lato lui appunto la tratta con i peggiori, secondo i peggiori crismi della propaganda fascista più retri, però dall'altro lui ammette, cioè quindi, cioè, non sposa né totalmente la seconda fase, diciamo, della propaganda fascista, per così dire, ovvero la promiscuità assolutamente bandita non deve esistere, poi stiamo parlando sempre di un periodo post-fascista democratico, lui è assurto a gli onori di grande giornalista liberale eccetera eccetera, quindi parliamo di un'epoca totalmente posteriore, però lui non sposa né totalmente i crismi della propaganda, questa cosa non deve esistere, quindi cioè, no, poteva non raccontare l'episodio, né però sposa dei crismi, diciamo, più, come dire, attenti alla dignità umana, nel senso, io ci sono stato, però era amore. No, no, lui dice, questa qui era un'animaletta, però ci sono stato, cioè era una lotta di miscuglio, sì, di istanze propagandistiche. A me questo mi è sempre... Però questo suo uso di questa giovane ragazza è antecedente le sanzioni per i rapporti di indole coniugale, quindi è ancora nella fase in cui cantavano Faccetta Nera, ecco, per capirci, quindi in qualche modo ci stava, non è così in contraddizione. Tra l'altro un fenomeno che assillò il regime, oltre al meticciato, fu l'insabbiamento, cioè vari italiani, anche soldati mandati per la guerra d'Etiopia, si insabbiarono, come questo era il termine che veniva usato. Su di loro ha fatto una ricerca molto bella Fabienne Leroux, che è un'antropologa francese, il libro si intitola Les Ensablés, appunto gli insabbiati, dove lei è andata a intervistarli in Eritrea ed Etiopia, questi uomini che si sono indigenizzati, cioè hanno conosciuto molti di loro una donna, ci si sono legati, una donna eritrea ed etiopica, si sono legati e sono entrati a far parte della famiglia di questa donna. Le interviste che lei ha fatto sono state montate in un film documentario molto interessante da una regista svizzera, mi sembra, Patricia Plattner, che è Hotel Abissinia. Ed è interessante perché si vede che molti di loro sono vestiti proprio, per esempio, con questa specie di pareo che tengono gli eritrei nel basso piano, vivono proprio all'Eritrea. Uno di questi, molto anziano, è con la figlia meticcia. E questi uomini rappresentano un paradosso, perché ovviamente dal punto di vista del prestigio di razza, il fatto che l'italiano si indigenizzi è lo scandalo, no? Però sono un paradosso. Io ne parlo facendo l'esempio proprio di questa storia, in questo capitolo, un meticcio di nome Benito, cioè uno di questi insabbiati, per quanto venga considerato dal regime un traditore, perché appunto molla, scappa, lascia l'esercito, si insabbia, stabilisce una relazione anche affettiva con una donna, lui ha un figlio da questa donna e lo chiama Benito, perché lui ha invece un'idea di Mussolini che non è l'idea che Mussolini ha di lui, ecco, cioè questa non risponde. Ma sono estremamente interessanti le loro storie, sono proprio incredibili. E questo era un altro dei pericoli che veniva visto, no? Quello dell'insabbiamento. Ma perché? Perché nel momento in cui tu ti indigenizzi, cioè dimostri che il bianco può indigenizzarsi, il prestigio di razza è... scompare, sì, cioè a rotoli, insomma. E... posso fare una notazione, ma molto interessata la fotografia che hai fatto vedere all'inizio, no, con tutte le cartoline propagandistiche, diciamo erotiche, no, sulla quella della ragazza che legge il libro, no? Perché appena l'ho vista ho pensato subito, diciamo, in termini di c'è più gusto da parte di un maschio, no, ad esercitare il suo dominio su una donna che ha qualcosa in più rispetto a lui, no? Quindi io affermo il potere bianco e maschile, no, del rispetto. Però invece ovviamente l'analisi che hai fatto te è quella che mi ha colpito, no? Perché c'era una volontà di rappresentare il popolo eritreo, le donne eritree come istruite, per la costruzione, no, volta ad affermare che la costruzione dell'impero coloniale italiano era quella più civilizzata. Oggi mi sembra, no, mi è venuta in mente questa cosa, c'è invece la tendenza a rimuovere e a coprire il fatto che i nuovi invasori che vengono da noi sono tutti, cioè molti, no, sono altamente istruiti, e invece la narrazione contemporanea è: io ipostatizzo il profugo o il clandestino, no, in una situazione, cioè lui non ha storia, non ha storia precedente, non è un medico che scappa dalla guerra, non è un ingegnere che cerca, no, non c'è più questa rappresentazione, anzi chi ha studiato e viene come profugo qua, dobbiamo far finta invece che sia un analfabeta, no? Tutti i profughi sono... Allora questo è legato, è un dispositivo di tipo diverso, è legato a una strategia diversa. Prima devo costruire, all'epoca dovevo costruire un impero, adesso devo distruggere, non c'è nessun impero da costruire dove poi traccio la linea di confine tra quelli che sono propriamente cittadini e quelli che non lo sono, no? Qua forse meccanismi e dispositivi di deumanizzazione all'esterno, quello che noi chiamiamo sul fronte esterno, sono portati, diciamo, al loro estremo, perché non c'è nessuno spazio, no, giuridico o politico comune da costruire, c'è soltanto la distruzione di tutto quello che resta fuori. E allora quella foto con l'africana istruita mi ha fatto pensare a questo rovesciamento. Sì, teniamo anche conto che c'è questo elemento fortemente suprematista per cui non vengono riconosciuti i titoli di studio qui, cioè di moltissimi paesi. Se ti sei laureato in un paese africano, in un paese latinoamericano, ma anche nell'est Europa, non viene riconosciuto, perché non mi servi come laureato, mi servi come altro tipo di forza lavoro, e quindi non... Io vorrei dire una cosa che mi sta molto a cuore sempre quando si parla di questo tipo di dispositivi e comunque di questo tipo di mentalità del colonialismo, del fascismo. Cioè, se la storia e la memoria e lo studio di tutti questi avvenimenti deve servire a qualcosa, dovrebbe servire, oltre alla conoscenza che è molto importante, però al fatto che deve essere strumento per l'analisi dell'attualità, di dove siamo messi adesso. Allora, adesso la cittadinanza, chiamiamola così, con un termine generico, vago, ma che nei paesi occidentali può rendere l'idea, è attraversata da un comune sentire che è fortemente impregnato di razzismo, fortemente impregnato di non dichiaratamente, ma di un concetto di superiorità dell'Occidente rispetto a tutta una serie di popolazioni. Ed è, si nota e si vede in tantissime cose, dall'uomo e la donna della strada che se la prendono con quello che rivista nell'immondizia, a quello che sale sull'autobus soltanto perché di colore viene preso di punta. Cioè, parlo del sentire che attraversa la gente. Allora, questo sentire che attraversa la gente e che è connotato di razzismo ed è un dato di fatto, non viene, cioè viene da diversi percorsi che si sommano. Uno è giustamente, come diceva Nicoletta, il fatto che l'Italia non ha fatto mai i conti con il fascismo. Tant'è vero che io mi ricordo mia madre che la sua famiglia erano partigiani, che quando c'è stata la liberazione molti sono scappati, che erano questi che erano compromessi con il fascismo, magari sono scappati in Carnia, i partigiani che li hanno trovati li hanno fatti fuori, e lei diceva sempre hanno sbagliato, perché se restavano al loro posto impiegati al comune non li toccava nessuno, come è successo. Perché è successo questo? La famosa resistenza tradita è anche questo, il fatto che non che non c'è stata la rivoluzione, ma che non c'è stato la resa dei conti con il fascismo. Allora, e quindi questo è sicuramente un percorso che ha portato, cioè che è sotterraneo e che continua a essere vivo. L'altro è sicuramente invece un tipo di politica che invece è stata fatta dalla socialdemocrazia riformista, e noi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché la socialdemocrazia riformista che ha abbracciato ed è stata portatrice in questo paese del neoliberismo ha dei connotati che rivendicano molto fortemente la supremazia bianca, e il neoliberismo stesso nel mettere in atto i dispositivi neocoloniali ribadisce fortemente che la supremazia bianca e che quei popoli sono incapaci di gestirsi da soli, incapaci di essere gestire una democraticità dei loro stati, incapaci di usare le loro risorse. E questo qui è passato nel comune sentire attraverso questo tipo di meccanismi, più che il meccanismo dichiaratamente fascista che magari adesso si trova nel decreto sicurezza di Salvini, che dice che perdono la cittadinanza, che ha inasprito tutta la serie. Perché i CIE, i CPR e i CPT, a seconda di come uno li vuole chiamare, che hanno cambiato nome, sono stati fatti dalla socialdemocrazia riformista nel 98 e hanno dato uno strappo fondamentale nel diritto come lo conoscevamo noi fino a quel momento in questo paese. Perché il concetto di detenzione amministrativa, per cui uno va in galera, è internato, non è una galera ufficiale, è internato perché è in una condizione e non perché ha fatto qualche cosa, è del diritto nazista degli anni 30. Cioè, negli anni 30 la Tatra Shud, che era il dispositivo per cui uno veniva internato per il suo modo di essere, per quello che era, è un principio nazista che la socialdemocrazia riformista è stata la prima qua dentro a fare questo strappo, e è cominciato da lì. Per cui è vero che adesso Salvini ha inasprito tutta una serie di cose, eccetera. Ma l'impianto di questa cosa è socialdemocratica. Oh, non ce lo possiamo dimenticare, perché se noi ce lo dimentichiamo, dimentichiamo che la matrice di quello che della mentalità che adesso attraversa il paese viene da lì. Tant'è vero che nel momento in cui, per esempio, vengono messi in atto tutta una serie di meccanismi buonisti del tipo noi andiamo con le ONG, con l'associazionismo, eccetera, a fare i pozzi in Africa, andiamo a aiutare i bambini qua, andiamo a aiutare i bambini là, facciamo le scuole, eccetera. Che cosa succede? Che poi nei supermercati della nostra bella Italia, alla cassa ti chiedono il soldino per fare il pozzo, oppure c'è il banchetto dell'associazione di turno che ti dice: ah, lei lasci una cosa, una sovvenzione, oppure ti fanno delle pubblicità alla televisione che sono da rotolarsi sul pavimento. Questo che cosa succede? Che cosa fa? Che cosa crea? Crea il fatto che le persone di questo paese si sentono buone, democratiche, bianche e superiori a gente a cui uno deve andare a fare il pozzo perché non si sanno gestire. Sono meccanismi di costruzione dei dispositivi del razzismo che attraversa il comune sentire, che sono fortissimi, più forti della dichiarazione fascista plateale. Posso aggiungere una riflessione che mi veniva prima, perché sennò sembrano proprio, come dice lei, due blocchi, no? Quello che c'è stato durante il fascismo e quello che c'è adesso, senza nessuna continuità. Io credo che, cioè, il razzismo è proprio, non so, è proprio culturale, è rimasto culturale e si esprime nel momento in cui i furti, tutto quello che noi abbiamo potuto levare, togliere, rubare, appropriarci in paesi lontani per assicurare il nostro benessere, quindi ben più della sopravvivenza, sono sempre avvenuti, no? E diciamo, se una cosa del genere avviene, a me viene da pensare, vuol dire che tu pensi veramente che la popolazione che stai derubando, massacrando, è un popolo di idioti. Cioè c'è una presunzione, ovviamente, no? Anche culturale di superiorità, per cui è giusto che sia così, è giusto che la Nigeria sia avvelenata, che il popolo della Nigeria muoia perché non può più coltivare, perché non può più prendere. Il problema che è sorto è che a un certo punto queste persone, di cui noi ce ne siamo ampiamente fottute, abbiamo pensato appunto di essere così superiori da poterci permettere di fare morire, si sono presentate a casa nostra. A quel punto non solo noi siamo superiori, ma tu ci spaventi in qualche modo perché sei l'estraneo, perché c'è una crisi economica, perché tutto quello che poi si è andato a costruire. Però, cioè, non è che ci sono due poli così. Noi siamo, scusate, noi, voglio dire, proprio come cultura, il razzismo c'è sempre, no, fatto parte. Poi se questo... Sì, mi viene in mente, rispetto a quello che diceva ora Marina, no? Prima si discuteva con Nicola di questo lavoro che ha fatto sull'accoglienza, sostanzialmente, dei migranti, la cosiddetta accoglienza, no? Di come il debito al volo. Mangiano tutti? Chi non mangia, allora fanno prima. 4. Quel debito di gratitudine, no? Viene accollato al migrante nel momento in cui viene preso dal barcone e messo anche sulla nave dell'ONG, in realtà serve a nascondere il credito di gratitudine che invece dovrebbe essergli riconosciuto, no? Rispetto proprio a questa analisi che faceva ora Marina, mi viene questo rovesciamento, ad esempio, potrebbe essere interessante già incominciare a rovesciare le cose, perché davvero è un mondo alla rovescia, rimettiamolo sui suoi piedi. Allora, volevo solo dire, ho già parlato, lo so, però questa cosa che hai detto prima della doppia faccia della medaglia del razzismo, no? Cioè che c'è un razzismo, vabbè, fra virgolette, diciamo di destra, ignorante, così, insomma, sovranista, populista, e poi c'è un razzismo in verità di sinistra. A me quelle pubblicità che ogni tanto vado a vedere a casa dei miei, appunto, sempre questa televisione, sono spaventose, ma non perché mi mettono paura, perché sono pietiste e rientrano nel discorso generale che il negro debba chiedere per favore, mi scusi, permesso, posso entrare. E sì, certo. Sì. Sono buono perché ti metto lo zerbino welcome. Esatto. Sono un po' cattivo perché ti faccio il decreto sicurezza. Ma fai la stessa cosa, stesso cortocircuito. Sì, guarda, tanto sono breve. Sì, sì, vai. No, secondo me poi in quello che diceva Nick, no, si capisce bene quanto poi il potere, a seconda di come deve deumanizzare, quanto gli serva, il modo in cui deve sfruttare, ovviamente ha delle tendenze, no? Se la prima tendenza può essere quella, vabbè, possiamo pure andarci con queste negrette e poi no, non ci potete più andare. Però in realtà, appunto, cioè, come tu hai anche spiegato molto bene, cioè, di fondo poi non è che è cambiato l'atteggiamento, cioè semplicemente ovviamente le mire imperialistiche e anche il contesto storico a cui stiamo andando incontro cambia, si evolve, diventa qualcos'altro, e quindi ovviamente anche lì bisogna cambiare un po' i puntini sulle i, però insomma, cioè, nel senso, poi il nocciolo duro è quello comunque della supremazia della razza italiana bianca rispetto a quella che si sta andando a colonizzare. Quindi penso che in generale di base rimanga sempre la linea in cui comunque la deumanizzazione, il razzismo, il sessismo siano gli strumenti che il potere detiene, cioè come spiegavi tu, no, col tappetino welcome o piuttosto col sei un ladro. In realtà è questo, cioè quello che sta succedendo secondo me anche un po', no? Quando vedi il senatore di colore della Lega, è un po' questo, perché, cioè, nel senso, se tu ti comporti bene e prendi i miei valori e li porti come tuoi, allora ovvio che, cioè, tu sei dei nostri. Quindi tra virgolette una sorta di evoluzione, quasi di integrazione, perché poi, appunto, come diceva Elisabetta, cioè il concetto l'ha ripreso comunque la socialdemocrazia, e in quanto socialdemocrazia ovviamente cioè dà l'opportunità di redimersi e poter ambire a diventare, che poi questo sia ovviamente uno specchietto per le allodole, perché ovviamente, appunto, cioè, nel senso, dal punto di vista economico non ci servono altri laureati, perché non ci sappiamo manco che faccio con quelli nostri, quindi, cioè, figuriamoci se mo prendo quelli stranieri. Quindi si intersecano ovviamente tante piccole cose. Però, diciamo, c'è stato una sorta di gradino in più in cui, appunto, io posso anche, tra virgolette, prenderli tra i miei, perché a questo punto mi serve comunque di ribadire dei concetti. Però devi stare all'interno di questi parametri. Se non stai all'interno di questi parametri, secondo me questo ad oggi è un po' la cosa più forte che poi tutte le categorie più oppresse si portano dietro, sono proprio queste, cioè tu devi comunque correre nei canoni. Cioè, secondo me il fatto che si sia passati a un livello di penalità amministrativa e non più di reato, e quindi non vai più in galera, cioè è qualcosa di pecuniario, qualcosa comunque che tra virgolette non è il carcere, no? Cioè io ti metto lì d'interno e capisco quello che devo fare con te. Sta proprio nel fatto di non essere nemmeno dichiarata come regime o come governo, no, di oppressione, ma è un governo che comunque in qualche modo, se tu cammini sul selciato che io ho predisposto, va tutto bene. Sfori di qualcosa, io comunque ti devo dare la mazzata. La mazzata ovviamente ad oggi non mi serve più di dartela in senso materiale, ma basta che io ti spaventi coi soldi, perché effettivamente funziona molto di più. Cioè, molto spesso l'abbiamo ribadito, le multe amministrative che vengono date o comunque che per ora sono state millantate, perché ad oggi per fortuna ancora nessuno l'ha dovute pagare, però ci siamo quasi, mi dicono, che a breve arriveranno, bello, hanno ovviamente spaventato molto di più, sono state molto di più un deterrente, no? Perché ma chi ce l'ha 10.000 euro per pagare la multa? E quindi, cioè, secondo me è un'evoluzione semplicemente più allargata della repressione e delle modalità, è ovvio, cioè, hanno imparato anche loro dai loro errori e adesso sì, se la giocano con molta più intelligenza. Allora, quello che ha detto prima Elisabetta, che ha citato i CPR, no? Quelli furono messi dalla turco-napolitano, che si chiamano CPT. Turco-napolitano sono due praticamente, che sono attualmente del Partito Democratico. Allora erano del Partito Democratico di Sinistra, PDS. E in poche parole, comunque, diciamo, il prossimo presidio c'è... Sono stati portati anche dei volantini, il 10 febbraio alle 15.30. Poi, riguardo al colonialismo, di cui si parlava prima, c'è anche la questione della Libia. Allora, soldati italiani che colonizzarono la Libia tanti anni fa, facevano anche delle scommesse su donne grosse incinte, a aprirgli la pancia con la baionetta, per vedere se era maschio o femmina la creatura che portava in grembo. Facevano le scommesse sopra, a proposito di italiani brava gente. Ebbene, questo proposito mi viene in mente una cosa che ha scritto, che ha detto Aimé César, che è uno scrittore delle Antille, sbaglio. Sì, che praticamente quello che è stato fatto agli ebrei con l'olocausto e che ha suscitato così grande clamore, così tutto questo risentimento fortissimo, è perché è stato fatto da bianchi a bianchi quello che i bianchi facevano da secoli ai popoli colonizzati. E quindi è soltanto perché un bianco l'ha fatto un altro bianco. Invece volevo fare una domanda. Se il razzismo coloniale italiano si sia mai lanciato in tentativi di categorizzazione e soprattutto gerarchizzazione delle differenti razze inferiori, differenti razze di neri. Lo chiedo perché mi colpirebbe che non ci fosse, perché invece il momento in cui si arriva a categorizzare, a gerarchizzare differenti tipi di razze inferiori è forse l'unico momento comune a, almeno per quello che mi sembra, a tutte le diverse forme, anche molto diverse forme di razzismo. È un elemento comune al razzismo biologico del fascismo, al razzismo magico del fascismo esoterico, alla Evola vicino al nazismo, è qualcosa anche del razzismo dei giorni nostri, in cui non sono assolutamente tutti uguali, li categorizziamo in diversi gradi di pericolosità, diversi gradi di abbrutimento, diversi gradi di lontananza noi, che poi sono variabili e cambiano nell'arco di un anno, cioè, prima è l'albanese sopra i neri, poi l'albanese sotto i neri, poi c'è il nero così, il nero colà, cioè ci sbizzarriamo. Se anche noi avessimo all'interno, che ne so, delle diverse etnie, dei diversi gruppi anche culturali, etiopi, eritrei, libanesi, costruito una gerarchizzazione di chi ci piaceva di più e chi ci piaceva di meno. Sì, come ho detto prima, appunto, commentando l'immagine della ragazza col libro, appunto, più erano neri meno piacevano, no? Quindi più andavano verso il bronzato e quindi si stemperava il nero, meglio andava. Ma non solo, Lidio Cipriani è uno proprio che si occupa di questo, cioè è un antropologo che si occupa di questo, ma addirittura, voi avete visto nel manifesto, si parla di razza italiana, no? cioè la razza italiana è la razza, secondo i razzisti, questi scienziati razzisti, la razza al top di tutte le razze, anche bianche. Anche cioè, quindi sì, viene ridefinita una gerarchia tra razze in cui sopra tutte sta la razza italiana, e la difesa della razza dedica a questo tutte le sue ricerche storiche, tra molte virgolette, su Napoleone, su questi personaggi, ad esempio i grandi condottieri che sono di origine italiana, appunto il popolo di eroi, navigatori e bla e bla e bla, no? Ci sono queste grandi figure, quello serviva poi anche a rivendicare appunto la Corsica piuttosto che... Però sì, assolutamente viene proprio ridefinita la gerarchia tra razze. Sì, è uno degli scopi, se no come la costruisci questa razza italiana. Vi volevo, prima della prossima domanda, raccontare un aneddoto che vi fa capire il livello incredibile di questo sfruttamento senza fine del colonialismo anche rispetto alla questione del meticciato, no? Quando scoppiò appunto la guerra trentennale, durata poi 30 anni, tra Eritrea ed Etiopia, molti italiani che erano nelle colonie, nelle ex colonie, che erano rimasti lì, vendettero i riconoscimenti di paternità ai meticci che non avevano avuto la cittadinanza per poter ottenere il passaporto italiano e venire via. Quindi qui c'era una complicità incredibile dell'ambasciata italiana ad Asmara e di quella ad Addis Abeba, ma io lo so in particolare sull'Eritrea, quindi parlo dell'ambasciata italiana ad Asmara. Una mia amica eritrea mi ha raccontato che addirittura uno aveva riconosciuto più di 100 figli, che non erano ovviamente figli suoi, ma pensate che business ci ha fatto, sempre sulla cittadinanza, guarda caso, no? Cioè faceva il finto riconoscimento a posteriori, e quindi l'ambasciata, ma pagando, io avevo un carissimo amico meticcio, a cui tra l'altro è dedicato questo libro, Hagos Agostino, che appunto era figlio di un italiano che se l'è data naturalmente dopo aver fatto 2 o 3 figli con questa donna, è sparito. E lui, per poter venire qui a fare il lavoro politico a sostegno della guerra di liberazione eritrea, ha comprato da un italiano questo cognome, sostanzialmente un cognome italiano, e quindi aveva la cittadinanza italiana. Il business infinito, no? C'è sempre una fonte di profitti, insomma, si può spremere sempre di più. No, a me era venuta in mente un'osservazione in realtà successiva a quello che avevi detto tu sulle onlus, sì, eccetera, e che mi è tornato in mente un episodio. Poi io non metto in discussione la buona fede delle persone che lo fanno, spesso cominciano da ragazzi a 20 anni, a 18, 19, 20 anni, perché hanno l'ansia di fare qualche cosa di pratico, insomma, no? E mi ricordo che la mia compagna d'università andò in Congo con un'associazione laica, che poi vengono anche chiamate le nuove religioni, sono le religioni per gli atei, no? Tu non credi, però quella è una forma di religione, è anche quella una forma di religione. Andò, cioè, in missionario, insomma. Sì, è missionario, però senza... Sì, missionario. C'è anche una tendenza anche a staccarsi dalle missioni cattoliche e cristiane, rispetto a questo tipo di... C'è una grande, una forte distinzione. Sebbene nelle missioni cristiane richiedono una formazione maggiore per partire, a meno che tu non vai lì solo per vedere, così, però... Non puoi fare niente se non sai fare niente, questo è il discorso. Andarono in Congo lei tornò, parliamo di una ragazza di 20 anni, poi spero sia cresciuta, ma per dire quanto era radicalizzato, quanto è radicalizzato il razzismo, è proprio una concezione biancocentrica di qualunque cosa. Tornò e loro passavano del tempo con questi ragazzini che stavano in questa struttura lì in Congo, so, provavano ad insegnargli qualche cosa, io neanche ho approfondito perché ero rimasta un po' interdetta di fronte. Mi disse: ah, non capiscono la matematica degli elementari, insomma, sono più stupidi, sono bambini più stupidi, sono stupidi. Parliamo i bambini magari 7-8 anni, che io non so neanche che percorso ci avessero avuto, se magari avevano fatto un certo tipo di... cioè, ed era veramente convinta che fossero più credini dei bambini nostri. Cioè, capito a che livello? E questa andava però in Africa, cioè, a salva il mondo, perché... con la mentalità suprematista. E non se ne rendeva conto però, adesso il caso specifico, poi tra l'altro sta persona adesso tra l'altro sta all'ONU, però che dire... Il posto giusto, sì. Beh, ma tramite l'Oxfam, insomma, ho fatto... No, però per dire quanto è... radicalizzata questa cosa, cioè io ti distruggo da una parte col mio stato e io ti salvo comunque dal, poi salvo tra virgolette, il bastone e la carota, sembra è molto paternalistico, però è per dire quanto è radicalizzata. A me colpì questa cosa perché con tutte le buone intenzioni e tutta la voglia di appunto di salvare il mondo, tu vai lì, ritorni e pensi che sono realmente dei ritardati, li dipingi come dei subumani. È folle, no? Folle, insomma. No, volevo soltanto chiedere a Nicoletta se le era capitato, diciamo, se aveva fatto delle interviste a queste donne in questi anni di ricerca e qual era, insomma, il loro racconto su queste quello... Donne, sì? No. Ah, ok. No, è una cosa molto difficile. Adesso sono riuscita a entrare in contatto con una cercata lei peraltro, una ragazza di origini italo-africane, italo-eritree, la cui nonna diciamo era stata stuprata da un italiano e l'ha ammazzato dopo lo stupro, il che ci fa almeno piacere, e però appunto rimase incinta e da lì nacque poi, diciamo, questa discendenza italo-eritrea di cui lei è la nipote, e volevo farmi raccontare bene questa storia, mi interessa molto, però è molto difficile sentire e raccogliere. Tenete anche conto che c'è anche molto pudore nel raccontare queste cose, non è facile, ed effettivamente a me è anche capitato di far vedere, non tutte queste immagini, però di fare una lezione all'università di Asmara su questa questione del colonialismo, e mi sentivo anche molto in imbarazzo, perché quelli che avevo davanti erano i nipoti e le nipoti di molti, insomma, di questi stupri, quindi era veramente di queste donne che erano state violentate, quindi era davvero... E infatti anche con loro non è stato facile parlare di questo. Però la cosa che immediatamente mi hanno detto era, il periodo era il 2001 quando io feci questa lezione tramite un mio amico eritreo che insegnava lì all'università e mi ospitò nel suo corso di storia. Quello che mi dissero però gli e le studenti, che erano tutti adulti poi, perché lì se sei stato un combattente, studi gratis all'università eccetera eccetera, era come adesso con le Nazioni Unite, no? Questo è stato, perché era appunto, come ho detto, così lampante da vedere. Però ci sono, ecco, racconti, invece ci sono scritti, romanzi, c'è una letteratura postcoloniale che purtroppo è molto ridotta ancora, a differenza di quella per esempio dell'impero britannico. Però ci sono dei testi di letteratura postcoloniale anche che vengono dalle ex colonie italiane, che sono interessanti da questo punto di vista e raccontano e parlano. Sì, no, soltanto brevemente, era per ricordare, cioè per notare, cioè, l'importanza che c'è nel raccontare che le leggi razziali sono avvenute ancora prima dell'avvento del regime fascista sia in Eritrea, in Etiopia, che in Somalia, cioè ha fatto parte proprio di una cultura, insomma, alla fine, perché insomma in tanti anni, vabbè, io sono comunque nato e cresciuto qui in Italia con origini eritree, però spesso quando mi succedeva, magari da ragazzetto, le classiche cose sull'autobus, alzati che stai occupando il posto per un italiano di qua, di là, spesso nelle litigate che si avevano con le persone, quasi nessuno poi conosceva questo passato, insomma, proprio l'italiano che era andato lì, non so, a violentare le donne alla fine, o a colonizzare, a rubare le risorse, insomma, poi al di là di Eritrea, Etiopia e Somalia, cosa che hanno fatto tutti i paesi europei. E come queste realtà, segregazioni razziali, chiamiamole così, sono continuate anche dopo, come lei ha ricordato, l'avvento del protettorato britannico nel 41, però non è che poi sono finite, perché poi non è che gli inglesi erano da meno degli italiani, anche loro sono stati colonizzatori, però una cosa che è durata anche per racconti che mi hanno fatto in famiglia anche fino agli anni 70, cioè fino all'avvento di Mengistu e Mariam. Una volta arrivato Mengistu e Mariam, molti italiani si sono dati, è un po', insomma, la cosa un po' è cambiata, però è una cosa che è continuata negli anni. Però ecco, è importante, insomma, ricordarlo questo, perché al di là del regime fascista, ma prima ancora c'erano governi appunto democratici, tra virgolette, liberali, come quello di Crispi, che aveva dato inizio a queste cose. Io lo ricollego un po' oggi, è come quanti governi europei, tra virgolette, democratici, mantengono rapporti con dittature africane che sono proprio responsabili, no, di tanti ragazzi e ragazze che scappano e arrivano in Europa, insomma, alla fine, tutto qua. No, però era un po' la cosa che diceva anche lui, nel senso che mi era capitato nel 2005 di intervistare delle donne che però erano, diciamo forse la parte positiva della storia, le donne che poi si erano sposate con gli italiani e che erano arrivate qua in Italia come, diciamo, mogli legittime dopo la fine della guerra. E quindi lì avevo insomma, scambio di poche frasi, però anche lì proprio una cosa di non andare molto a fondo, di non voler tanto raccontare, insomma, lo stesso tipo di difficoltà, anche se erano donne, tra virgolette, erano arrivate, sposate, coi figli riconosciuti ufficialmente, quindi a lieto fine in un certo senso. Allora, siccome la cena incombe e di là stanno preparando, non so se... cosa volete fare, se volete continuare a discutere, prendere o se possiamo ecco, dare il via alla discussione vis-à-vis, e uno prende il libro e intanto andiamo a cena, va bene? Ma io sono qua a cena, quindi potete... Quindi anche... grazie a Nicoletta tantissime per questo incontro, ci ha fatto tanto piacere, e poi noi ne faremo un altro il 9 di febbraio. Grazie a voi. Grazie per la pazienza di ascoltare. Alzata di mano chi resta a cena? Alzata di mano? Sì. Secondo me fai prima a dire chi non resta. Vediamo il contrario.